Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Bentornati, signori miei, a Voice Anatomy, in diretta dagli studi di Radio 24. Siamo qui con voi, vi ricordo tutti i nostri numeri per partecipare, la diretta 800 800 24 00 24, il numero degli sms 349 238 6666, tutti i nostri social sono aperti per voi, Facebook ovviamente Voice Anatomy e tanto di Twitterio e cinguettio. Ma non vogliamo aprire questa puntata in questo periodo natalizio e di festa con un cinguettio, ma con delle voci molto importanti, con un bellissimo canto. Vorremmo introdurre questa nuova puntata, che è un gospel. Il gospel non è altro che God Spell, la voce di Dio che si esprime attraverso gli umani. Benvenuti a Voice Anatomy, un viaggio nei mondi della voce. Voce di Dio attraverso gli umani ha una voce che vi sta accompagnando in questo viaggio declinato in tutti i suoi meandri della voce. E oggi cominciamo questo viaggio con un grandissimo del panorama, del non solo del doppiaggio ma di tutto ciò che è arte. Ho scoperto delle cose bellissime e nuove del signore che ho al mio fianco, qui alla mia sinistra, e allora ve le racconto. Lui è Gianni Galassi, che è nato a Milano nel 1954, si può dire, perché sei un uomo e qui l'età dell'uomo si può dire. E io scopro che, oltre ad essere un grandissimo direttore di doppiaggio, adattatore, traduttore, è tuttora un grandissimo fotografo. Nasce la sua passione nel mondo dell'arte figurativa, quello della fotografia, e ha ottenuto già parecchi premi, ovviamente come dialoghista e come direttore per quanto riguarda il suo lavoro, delle serie straordinarie come Downton Abbey o AR, Medici in prima linea, con film invece molto intensi come Goodbye Lenin o Le invasioni barbariche. Ma ti dedichi fin dall'infanzia al mondo della fotografia e insomma, come na? Gianni Galassi, benvenuto a Voice Anatomy. Buongiorno Pino. Buongiorno a lei. Lei è milanese. Va bene, non è un difetto, non l'ho detto. Citando il Nino Manfredi di Pane e Cioccolata, potrei rispondere che nessuno è perfetto. No, no, assolutamente no. Allora, in questa domenica dovevi essere assolutamente presente in questo percorso della voce, perché tu la conosci, la adatti, la traduci e ascolti soprattutto tutti quelli all'altra parte del vetro, infatti, che ne fanno ogni tanto scempio. E infatti soprattutto ho il privilegio di vivere e lavorare con la voce senza mai mettere in gioco la mia. Quindi io sono uno che la voce l'ascolta, la dirige, per usare un termine un po' pomposo, diciamo che la tiene per mano e la accompagna, indicandole una direzione che è quella alla quale io penso quando analizzo il film o il telefilm che dobbiamo doppiare, e mi sforzo di immaginare come dovrà suonare alle orecchie dello spettatore d'arrivo. Che è tutto lì. Ci ascoltiamo un piccolo brano tratto da un film da te diretto, bellissimo, che vi consiglio se non l'avete visto. Il film era Le invasioni barbariche. Siamo stati tutto e il contrario di tutto. È davvero incredibile. Separatisti, indipendentisti, sovranisti, sovranisti associazionisti. Quando muovevamo i primi passi siamo stati esistenzialisti. Avevamo letto Sartre, Camus. Poi abbiamo letto Franz Fanon e siamo diventati anticolonialisti. Dopodiché abbiamo letto Marcuse e siamo diventati marxisti. Marxisti, leninisti, trotskisti, maoisti. Ma lì abbiamo letto Solzhenitsyn, così abbiamo cambiato idea. Siamo diventati strutturalisti. Situazionisti. Femministi. Decostruzionisti. C'è qualche ismo di cui non siamo caduti in adorazione? Sì, c'è. Il cretinismo. Oh mio Dio. Vi ricordate di Guo Jing? Chi sarebbe Guo Jing? Un'archeologa che portava la gonna con lo spacco ad altezza inguine. E tu perché te la ricordi? Siamo sul finire degli anni 70. La Cina apre all'Occidente. Guo Jing viene in missione culturale a Montreal. L'università coglie l'occasione per schierare il suo comunista di rappresentanza. E chi meglio di te, certo. Faccio il mio ingresso nella sala da pranzo del suo hotel e appena la vedo sono folgorato. Beh, un'orchestra di voci. Ecco, questo è proprio stato un esempio di come si adatta e soprattutto come si dirige un'orchestra di voci. Un'orchestra di voci che nel caso in questione io ritrovavo davanti ai miei occhi e davanti alle mie orecchie a circa un ventennio di distanza dal film di cui Le invasioni barbariche è il sequel. Vent'anni prima Denis Arcand, grande regista canadese, aveva girato Il declino dell'impero americano. Come no? Che guarda caso avevo tradotto e adattato io all'epoca per la direzione di Giorgio Piazza, grande direttore di doppiaggio che non è più tra noi, no. E devo anche ricordarmi questo aspetto personale. Quell'adattamento fu il pretesto dell'inizio di una, non diciamo una vera amicizia con lui perché c'era una grande differenza di età, non avevamo il tempo di frequentarci molto, però devo dire che tra i colleghi della prima una scuola o di due generazioni che mi hanno preceduto, è stato uno di quelli con cui ho avuto il feeling più forte. E poi è tornato così per caso? Poi il caso ha voluto che, lavorando per un altro committente, e questa volta lavorando non soltanto come dialoghista ma anche come direttore di doppiaggio e anche come imprenditore, perché l'edizione di questo film fu affidata alla mia società, è chiuso di nuovo, il cerchio. Ho chiuso il cerchio perché mi trovai davanti i personaggi invecchiati di quel bellissimo film, ai quali peraltro mi ero moltissimo affezionato vent'anni prima. Sì, è un grandissimo film. Ecco, utilizzate anche questa trasmissione per riscoprire qualcosa che vi siete persi. Beh, questo è un film da non perdere, come non sarebbe da perdere il film che lo aveva preceduto, e come non è da perdere Le età barbariche, l'età che barbariche, è il terzo seguito, capitolo di questa ideale trilogia di Denis Arcand, che racconta come se fosse un unico grande romanzo diviso in tre capitoli ambientati in epoche diverse, che cosa è successo al mondo della cultura, della politica e dell'ideologia di quello che noi un po' confusamente chiamiamo Occidente negli ultimi trent'anni. E gli attori che sono stati utilizzati, le voci almeno degli attori, sono rimaste quelle o c'è stato un cambiamento? Ci sono stati alcuni cambiamenti di forza dovuti, maggiore, certo. Ma là dove è stato possibile mantenere le stesse voci mi sono sforzato di lavorare con le stesse voci, anche perché, grazie al cielo, l'età è camminata parallela, è camminata parallela, quindi non c'erano forzature. Certo, no, ma la cosa bella che mi affascina è intanto la voce e la luce, sono quattro lettere. Voce e luce, perché c'è una interessante assonanza tra queste due parole. In realtà a metterle in contatto nella mia vita professionale è stato semplicemente l'evolversi di una passione verso un'altra passione verso un'altra passione. Quindi ho iniziato facendo il fotografo, parente stretto della fotografia, il cinematografo. Mentre facevo il fotografo decisi di diventare il gestore di una sala cinematografica a Milano. Anche perché hai cominciato nel cinema lavorando come assistente fotografo nel film di Marco Tullio Giordana, Maledetti vi amerò. Sì, ma prima ancora. Ero diventato il gestore di una sala cinematografica d'essè a Milano. Pur di respirare cinema. Che l'amico Marco Tullio Giordana, allora aspirante regista, frequentava pressoché quotidianamente. E quando poi lui riuscì finalmente a realizzare la sua opera prima, io non potei fare a meno di saltare su questo carrozzone, e come succedeva nei romanzi ottocenteschi, dove il bambino fuggiva verso altre città insieme al circo, Io fuggì da quella che era la mia Milano di allora, eravamo nel 1972, verso la Mecca del cinema che era Roma. Mamma mia, il 1972 sembra molto vicino, ma non lo è così vicino. Non lo è, ma ti assicuro che se hai buona memoria sembra l'altro ieri. Sì, è quello che mi sta rovinando, che io ho buona memoria e mi sembra l'altro ieri. Infatti. Poi, meno male che non ci sono specchi in sala, ma siamo molto giovanili, mi metto anche tu, te li porti benissimo. Sì, poi per fortuna entrambi probabilmente dobbiamo aggiornare gli occhiali. Sì. In ogni caso, per tornare a come si aggiorna non solo il telefonino, ma infatti, si aggiornano anche la versione 3.0 in arrivo. Esatto. In ogni caso, per tornare a come dalla luce si arriva alla voce, passando poi alla produzione cinematografica con vari ruoli, prima come secondo operatore alla macchina da presa, poi come aiuto regista. Ti poi sei declinato in tutti i modi, in parecchi modi. A un certo momento l'edizione, cioè tutta quella parte della produzione di un audiovisivo che segue le riprese, è stata quella che mi ha catturato maggiormente, perché mi ricordava l'atmosfera della camera oscura quando facevo il fotografo, che era un momento di riflessione lontano dalla dispersione, dall'ansia, dall'entropia del set fotografico o cinematografico. E da quello al doppiaggio il passo è stato abbastanza breve. Poi, come sempre nella vita, ci sono delle opportunità che ti si parano davanti, decidi di coglierle, e queste, quando le ripensi a posteriori, le chiami decisioni. Ma lì per lì non sono sempre tali. Sono belle queste piccole avventure di sliding doors, che sta diventando un po' il massimo comune divisore anche di questa trasmissione, perché meno male dei cambiamenti sono avvenuti all'improvviso. Poi qualcuno dice la fortuna per qualcuno ti coglie di sorpresa, la fortuna va colta di sorpresa, la fortuna ti deve trovare pronto in quel momento, però è tutta poi la tua decisione. Beh, un destino già scritto. La fortuna è una fidanzata che devi trattare bene sempre e comunque, falle spesso dei regali, portala fuori a cena. Bella donna. E lei ti ricambierà. Quello sempre. Però devi avere quella valigia piena, pronta all'utilizzo. Sì, devi volerle bene. Questo, bisogna cominciare. Allora, ragazzi, questo è un tutorial che ha qualcosa a che vedere con la voce? No, ma con la vita sì, anche quelle sono quattro lettere, vita, luce, voce, insomma sono abbinate. E io leggo, perché mi piace questa tua attività parallela, che è quella poi che ti rende anche più fantasioso, se vuoi, anche in una direzione di doppiaggio diversa, parlo anche come testimone oculare di tutto questo, testimone uditivo di tutto questo. Tu nasci appunto come fotografo, ma non hai mai smesso, anche perché tieni i corsi all'Università di Bologna, alla Fondazione Cini di Venezia, alla Summer School di Lazio Terra. Le tue opere poi fanno parte di collezioni private in Italia e all'estero, oltre che della collezione permanente della Fondazione Cini di Venezia. E adesso c'è una mostra, anche tu hai dato questo libro bellissimo, Elogio della luce, visioni del razionalismo italiano, che è in mostra a Venezia fino a quando? Fino al 28 febbraio del 2016. Il 28 febbraio del 2016, dopodiché si trasferirà a Londra, sempre in uno spazio espositivo della Fondazione Wilmot, che ospita la mostra qui a Venezia, ed è una mostra di fotografie in bianco e nero che ho dedicato alla declinazione romana e dei dintorni di Roma della scuola del razionalismo italiano. Questo momento sublime dell'architettura italiana, che adesso che finalmente se ne può parlare liberi dal sospetto che si faccia apologia del regime durante il quale questa architettura si è sviluppata, ma che non è stato elemento essenziale alla nascita di questa architettura, anche se l'ha evidentemente favorita, e merita di essere vista per quello che è, credo, uno degli ultimi momenti in cui l'architettura italiana ha raggiunto una statura davvero internazionale. Non a caso tutto quello che noi vediamo di architettonicamente interessante anche nel periodo postbellico in Italia non è altro che una ripresa di progetti e di elaborazioni che erano nate in quel periodo e che la guerra aveva soltanto interrotto. Pensiamo per esempio a certi edifici dell'Eur che furono completati solo in vista delle Olimpiadi del 1960, ma che inizialmente dovevano costituire l'ambito in cui svolgere l'Expo di Roma del 1942, che non si è tenuta mai. E come vedete, come potete sentire, soprattutto da Voice Anatomy a Light Anatomy, il passaggio è stato breve. Allora signori, ci salutiamo per pochissimo, rimanete con l'orecchio incollato alla radio, ma soprattutto a Radio 24, a Voice Anatomy. A tra pochissimo, Voice Anatomy è appena cominciato. Ancora più presenza, ancora più informazione, ancora più storie, ancora più ascolto. Per noi è questa la vera festa. Tanti auguri da Radio 24, perché la passione si sente anche a Natale. Voice Anatomy. E con l'amico Gianni Galassi qui al mio fianco a parlare di voce, di luce, perché no? E stavamo ascoltando invece il collega e amico voce ufficiale di Radio 24 nelle sue esibizioni vocali, che dice: ma la presenta un po' dura, sembra, adesso la facciamo rifare più dolce. Infatti devo dire che ogni qualvolta ascolto Radio 24 e sento gli stacchi con la voce di Christian Iansante, ovviamente mi domando sempre se sia stato diretto per farli in quel modo, cioè lo sento da direttore di doppiaggio. Esatto. E un giorno glielo ho anche chiesto. E lui che ti ha detto? Mi ha dato una risposta estremamente complicata, che poteva voler dire tutto il contrario di tutto. Non si è sbilanciato. Christian Iansante, stai tranquillo, non li rifacciamo con un altro doppiatore. Non ho chiamato Galassi per farti sostituire. Tranquillo, parliamo con i direttori. Siamo il direttore generale con Barisoni, ne parliamo poco con Napoletano. Con tutta la struttura di Radio 24 ti manterremo qui. Però dovrei rifarle qualcuna per noi, tipo Voice Anatomy, una cosa no, più dolce, non so, troveremo una strada. Galassi verrà qui e ti dirigerà tranquillamente. Insomma, questo percorso luce e voce ti ha accompagnato e tuttora ti accompagna. Sì, tuttora mi accompagna e non sembra, ma c'è anche un'osmosi tra queste mie due attività parallele. Non sono in antagonismo tra loro, se non quando il tempo dell'una ruba tempo all'altra, ma questo fa parte della vita di ognuno di noi. Ed è una fortuna non avere il tempo per fare tutto. È vero. Ti fermi un attimo prima. Sì. Però non ti ho mai visto con una macchina fotografica al collo, soprattutto in sala. Non ti mai. Allora, io ho sempre con me un apparecchio fotografico, dovunque vada, anche adesso ce l'ho di là nella borsa. E perché può sempre succedere. Qual è la tua strada da fotografo? Cosa riprendi di più? Cosa ti piace? Architetture, soprattutto. Non umani, insomma. No. La figura umana nella sua fisicità è totalmente assente nelle mie fotografie. Le mie fotografie sono immobili e silenziose. E quello che mi interessa soprattutto è cosa fa la luce e l'ombra sulle superfici dei manufatti architettonici, che genera a sua volta delle forme che in alcuni casi non erano nelle intenzioni del progettista, quindi sono delle forme preterintenzionali che vanno ad aggiungere qualcosa. Sono colpose. Sì, talvolta sono colpose, però sì. Sarebbe bello anche fotografare le luci e le ombre degli esseri umani, che anche loro involontariamente magari li nascondono dentro. Ci sono altri che lo sanno fare meglio di me. Io non ho quella pazienza. No. Eppure ce l'hai in sala. No, poi c'è da dire un'altra cosa. Chi mi chiedeva come mai nelle mie fotografie la figura umana è così regolarmente assente, dico sempre che non voglio farmi rubare la scena da altri uomini. Belle, egocentrismo preferisco, indiretto. Sì, preferisco che ogni mia fotografia sia un mio autoritratto, nel senso che mostra ciò che io vedo, senza l'interferenza di altre presenze umane. Ci siamo soltanto io e chi osserva la foto. Esatto, è quello che viene fotografato che non parla, che non risponde, non reagisce. Una muta presenza, e non sai quanto è rilassante quando hai passato 9 ore in una sala di doppiaggio. Esatto, mi stai guardando con occhi. Va bene, qui però non dobbiamo parlare di... Io sono soltanto un veicolo in questa trasmissione e faccio finta di non fare quello che invece realmente faccio e quello che quotidianamente... Talvolta con me. Talvolta con te, anche in cose molto, molto belle. Ci sentiamo un altro contributo come direttore, adattatore del nostro amico Gianni Galassi, che è un altro film bellissimo che vi consiglio, che è Goodbye Lenin. Cittadini di tutto il mondo, Il socialismo è stato e sarà sempre la fede. Nel discorso pronunciato al Palazzo Presidenziale in occasione del 41esimo anniversario della Repubblica, Erich Honecker ha reso nota la sua decisione, motivandola coi radicali cambiamenti epocali verificatisi negli ultimi mesi, degna conclusione di un'intera vita dedicata alla politica. L'ex segretario si è congratulato col suo successore alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che da oggi assume ufficialmente anche la carica di segretario, Zygmunt Jähn. Il cosmonauta. Nel 1978 Jähn fu il primo cosmonauta tedesco a volare nello spazio. Il nuovo capo dello Stato questa sera si è rivolto ai concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Ascoltiamolo. Care concittadine e cari concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Chi come me ha avuto la fortuna di ammirare il nostro piccolo pianeta azzurro dalle lontane profondità dello spazio. Ecco, questo è Goodman. Raccontarlo solamente con una piccola clip è impossibile, che è un film che ha un'idea geniale, poi di sottofondo. Sì, ma è... sì, che in buona sintesi l'idea geniale è questa: dopo la caduta del muro di Berlino, un figlio premuroso non vuole far sapere in maniera troppo traumatica alla madre che durante il suo lungo coma dovuto a un attacco cardiaco alcuni anni prima il mondo era cambiato. Sua madre era un'attivista della Germania dell'Est, quella che allora si chiamava la Repubblica Democratica Tedesca, e mai e poi mai il suo cuore già indebolito avrebbe retto alla visione della caduta del muro e del libero scambio, della libera circolazione, dell'arrivo anche brutale del consumismo nell'allora austera, cioè, Germania Est, facente parte del blocco sovietico. Quindi le crea intorno una specie di bolla antiquaria in cui sembra che il mondo non si sia mai modificato. Rigirando i telegiornali. Quindi rigirando... le fa vedere telegiornali che realizza insieme a un amico, mettendo insieme materiali d'epoca sì, e speakeraggi che lui costruisce rifacendosi alla retorica dei telegiornali e dei giornali radio degli anni pre-caduta del muro. E per quanto riguarda il mio lavoro, è stato molto interessante, e non è casuale che tra i vari film ai quali ho lavorato questo sia stato quello che ha collezionato il maggior numero di tesi di laurea dedicate a questo, alla versione italiana di questo film, proprio perché il lavoro di trasposizione linguistica e culturale doveva avvenire su diversi livelli della narrazione e sui diversi livelli della rappresentazione all'interno della narrazione stessa. C'erano tanti piani che si intersecavano. E sebbene io non conosca il tedesco, quindi mi sia dovuto avvalere della consulenza di una brava traduttrice, Sole Ferlisi, alla quale do ancora merito di avermi messo in condizione di svolgere al meglio questo difficile lavoro, è stato utile, per quanto mi riguarda, appartenere alla generazione alla quale appartengo e quindi aver vissuto in prima persona gli anni in cui la retorica della politica, soprattutto della politica che esprimeva le idee del blocco dell'Est, era qualcosa con cui avevamo tutti una certa familiarità, e io, grazie al mio personale grande interesse per la politica, ero in grado, probabilmente più di altri miei colleghi, di andare a ripescare quei modi di dire, quelle locuzioni, quelle forme retoriche anche un po' trionfalistiche che rendevano possibile dare il tono dell'epoca alla finta realtà che il giovane protagonista del film costruiva a beneficio della madre. Beh, bellissimo. Avere l'applicazione Galassi sul vostro telefonino, basta collegarsi con la cosa delle applicazioni e scaricarle. Voi cliccate e potete parlare con lui di tutto, anzi vi darà qualche dritta. Devono inventare un'applicazione del genere, dove tu sei pronto a tutto, cioè trovare l'applicazione degli uomini giusti in cui non perdi mai la possibilità di aprire un altro tipo di dialogo. Come vedi, ti sono stato a sentire in grandissimo silenzio, non sapevo dove intervenire. Con una pazienza esemplare. No, la pazienza no, è un aspetto molto affascinante. Se rimango io ad ascoltarti con questo religioso silenzio, mi auguro e sono sicuro che il pubblico, i radioascoltatori di Radio 24, che sono veramente non attenti di più, loro riescono anche a correggerti strada facendo attraverso gli SMS o attraverso una telefonata, se la cosa è molto grave, ed è capitato 2 o 3 volte in cui dei professori universitari sono intervenuti in maniera molto carina ed elegante in punta di piedi, non dicendo: ma cosa sta dicendo? No, No, di offese no, sempre ad arricchire quello che uno sta facendo. E questo mi fa piacere, perché è un pubblico molto attento e molto alto. E qui torniamo al senso che ha la voce. Se lo stesso rimbrotto fosse stato espresso nell'anonimato di un social network, probabilmente l'insulto del tutto irresponsabile sarebbe partito senza remore, senza freni inibitori. La voce da questo punto di vista andrebbe un pochino, si dovrebbe incoraggiare il ritorno all'uso della voce in diretta quando qualcuno vuole comunicare con qualcuno, perché l'anonimato asincrono e spesso del tutto irresponsabile del social network rende anche possibile una rappresentazione dei conflitti che, se questi conflitti venissero svolti vocalmente, entrerebbero molto di più in un alveo di civiltà e anche di una possibile composizione alla fine, se no è il conflitto per il conflitto. Quindi benvenga telefonata in diretta con la voce di qualcuno che esprime sotto la propria responsabilità, che deriva anche dalla sua ugola, esatto, quello che ha da dire. Sì, ma anche i messaggi sono molto carini. Non li leggo, quelli sono quasi tutti di complimenti, eccetera, è sempre bello seguirvi, eccetera, eccetera. Mi piace leggere quelli negativi, non sono tanti, però mi piace, perché certe volte uno non dà spazio al contraltare, no? E c'è sempre uno che lo ricordo ogni puntata, perché io rido sempre ogni volta quando l'ho letto, dico Pino Insegno, la ringrazio di fare questa trasmissione la domenica, perché finalmente posso fare le pulizie di casa, accendo l'aspirapolvere alla sua stessa voce. Questo io la ricordo ogni volta, perché è giusto, che quello è un monito per me. Ma tu a quel punto gli hai consigliato un buon tecnico per la riparazione dell'aspirapolvere? Pure, sì, certo. Ci sta un motore elettrico che emette frequenze di questo genere è sicuramente guasto. Si è rotto. Chiuderei questo penultimo intervento insieme a te con un altro contributo di una cosa più leggera, molto più divertente nella sua drammaticità, perché parliamo di quella serie fortunatissima dove Josh Clooney è riuscito ad uscire, non lo so, uno diventa schiavo anche di certi successi, anche se nazional popolari, che è AR. Notte intensa. Massacrante. Non mi seguirai, vero? Te ne vai sul serio? Non ho più niente qui. Ci sono io. Parlo del lavoro. Che resta a fare? Io non ti basto. Vieni con me. No, voglio che resti qui. Non posso. Scusa, ma non ne capisco la ragione. Devo andarmene, Carol. Non posso restare. Deborah, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono, sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. Voice Anatomy. E Voice Anatomy, signori miei, continua con questo bel percorso filologico sia della voce ma soprattutto della luce. Non stiamo andando fuori tema, sono figli dello stesso mondo da questo punto di vista. Mi piace moltissimo questo percorso che stiamo intraprendendo con Gianni Galassi attraverso l'adattamento di film molto importanti. Vi abbiamo già consigliato quella trilogia Dal declino dell'impero americano alle invasioni barbariche, e il terzo era invece l'età barbarica. E fino ad arrivare a questo Goodbye Lenin, abbiamo chiuso invece con qualcosa di più nazional popolare il precedente blocco con IR, che ha cambiato un po' la visione degli ospedali, e in effetti questo ha creato non pochi problemi. Perché? Perché l'ospedale americano sembrava meglio del nostro, perché in un telefilm tutto deve avvenire in mezz'ora, per cui arriva l'ammalato e lo stiamo perdendo, presto, 3 grammi di virivina, oh Cristo santo, no dai, invece... che non è vero, cioè nel senso può succedere un'emergenza così, però negli ospedali a Roma o in Italia ovviamente va, Che c'hai? Mettete là. Io spezzo sempre una lancia a favore della nostra sanità, perché ovviamente parlare male di una cosa che accade e dimenticarsi di parlare bene delle altre mille che sono buone, invece, insomma, mi dispiace sempre tanto. Però da questo punto di vista, IR medici in prima linea, che è interessante che tu definisca serie nazionale popolare, è una produzione statunitense. Statunitense, però nazionale nel senso che è tridimensionale. Hai ragione tu. Perché internazionalmente è internazionale popolare. Internazionale popolare, a modo suo. Rappresentava un grande elemento di novità, non solo perché era caratterizzata da una grande scompostezza, cioè era un colpo di scena dopo l'altro, sì. E i fili narrativi si intrecciavano a volte annodandosi in matasse che sembravano inestricabili, ma poi alla fine. La bravura di Michael Crichton, che era l'ideatore della serie, nonché il dominus di tutti gli sceneggiatori che lavoravano alle singole puntate, faceva sì che il tutto si dipanasse verso un finale plausibile. Ma raccontava finalmente, non dava più quella visione edificante del mondo ospedaliero che le classiche serie ospedaliere precedenti avevano dato. Mondo ospedaliero statunitense, il dottor Kildare. Il dottor Kildare, il bel dottore che ti ha detto. Qui c'era anche il bello, ma era in un'equipe dove c'era il brutto, il pacioccone. Sì. Era quasi. Bello, il brutto, il pacioccone. Oppure il brutto, lo sporco e il cattivo. Esatto. Si parlava spesso di disfunzioni della sanità pubblica. Non dimentichiamo che era ambientato in un policlinico universitario di una grande città statunitense del nord, che è Chicago, che in quel periodo attraversava anche dei problemi di bilancio pubblico abbastanza seri. E le conseguenze di queste difficoltà si riverberavano nelle vicende narrate. Quindi, alla fin fine, quella serie ha avuto il successo che ha avuto anche perché non idealizzava il mondo che raccontava, ma al contrario ne metteva in luce anche le debolezze, spingendo i personaggi a esprimere il meglio di sé, come nella miglior tradizione del dramma cinematografico, proprio là dove la difficoltà della situazione li costringeva a fare scelte difficili o a tirare fuori delle qualità che nemmeno loro sapevano di avere. Questa scena poi che tu hai molto astutamente tirato fuori dagli archivi. Sì, ma è una scena molto tranquilla che ha fatto versare lacrime di disperazione a molte spettatrici italiane. Perché Clooney era la scena che preludeva la dipartita di Clooney, perché ormai le prime stagioni di IR avevano conferito a George Clooney, attore già non giovanissimo a quell'epoca, il successo che da tanti anni aspettava di avere. Finalmente cominciavano ad arrivare le scritture per fare altre cose. E lui è riuscito a staccarsi. È sopravvissuto al proprio mito di serial, perché non è facile. Tutt'altro. Poi per molti oggi sta succedendo il contrario, cioè per molti attori di una certa caratura il serial diventa un punto d'arrivo, anche perché rispetto a quanto avveniva all'epoca in cui debuttò IR tantissimi anni fa, oggi il punto d'arrivo anche qualitativo delle produzioni audiovisive internazionali, a mio giudizio, è rappresentato dalle serie televisive e non più dai singoli film. Sì, infatti adesso i grandi attori vengono tranquillamente ad interpretare dei ruoli importanti nelle serie televisive. È come se quella felicità creativa, anche quel po' di incoscienza, di arditezza che una volta caratterizzava l'obeso produttore col sigaro in bocca, i piedi sulla scrivania, pronto a dare una sculacciata alla sua segretaria, ma che però era anche un genio della creatività e sapeva mettere insieme i talenti e nascevano le grandi opere cinematografiche. È come se tutto ciò si fosse trasferito nell'ambito apparentemente più angusto della produzione televisiva, dove in realtà i talenti sono molto più liberi di esprimersi. Io ho come l'impressione che i grandi film di circuito oggi li decidano di più i consigli d'amministrazione delle major, mentre le grandi serie televisive abbiano ancora la possibilità di nascere in un terreno di cultura artigianale. Sì, dove c'è più artigianato, dove i giovani talenti hanno maggiore spazio per esprimersi, forse perché se sbagli fai meno danni e allora si può usare un po' di più. Anche dei nuovi registi possono alternarsi in ogni... Poi c'è ovviamente il regista capo che dà le linee guida della produzione. Ma magari, però scoprono... È la grande bottega di Giotto piuttosto che di Michelangelo, perché no? Esatto, dovremmo prendere esempio da questo, come loro hanno preso esempio da noi per tante cose per quanto riguarda il cinema. Noi dovremmo prendere un piccolo esempio, perché poi sono tutti grandi attori e noi ce ne accorgiamo quando recitiamo e li doppiamo in qualche modo. Anche che una serie bellissima che tu stai facendo da tanti anni, questa serie che è Downton Abbey, che è fantastica. Che ha avuto tra i suoi recenti protagonisti anche un certo Pino in scena. Oh, sì, sono morto, non so che è successo, a un certo punto voglio dire, è andata a Genova. Sentimentalmente è defunto perché esatto. l'algida Mary esatto. non lo ha più voluto. Ma non sei stato tu che hai telefonato alla produzione inglese? No. Che no. dici, non questo lasciato, no. è lei che non per mi ha per quanto io ormai abbia un potere molto forte, notevole, non riesco, non arrivo ancora a tanto. No, no, infatti non sapevamo che fine avrebbe fatto, perché ogni tanto quelle serie non è che le mandano tutte insieme, uno sa perfettamente sempre il percorso di certi attori. Tra l'altro, no? questa è la prima volta da quando è iniziata la diffusione di Downton Abbey in Italia che iniziamo il doppiaggio della nuova stagione, che è la sesta. Sì. Prima che questa stessa stagione sia andata in onda per intera in Gran Bretagna, perché l'ultima puntata, la nona, sì. per tradizione in Gran Bretagna va in onda a Natale. È vero, perché l'ultima puntata c'è sempre quell'extra natalizio. C'è sempre un elemento, sì. Quindi io ho visto le prime otto. Ma non nona. So assolutamente cosa succede nella nona. Ho iniziato il doppiaggio delle prime otto senza sapere dove si va a parare. Mm-hmm. Cosa per me terribile come direttore di doppiaggio, lavorare a occhi bendati è veramente... Torno io a Natale, no? È il regalo sotto l'albero. Ma guarda, non escludiamo. Però mi chiamo Pino, sotto... no, ci potrei essere io al posto di quell'albero finto, con anche tanto perché... di ornamenti. Assolutamente sì. No, quella è un'altra serie bellissima, interessantissima, visto che lo sceneggiatore è lo stesso, quello che vinse l'Oscar con Robert Altman per Gosford Park. Precisamente. Anche lì c'è uno studio su vari livelli, anche questa mi sento di consigliarvi, perché normalmente anch'io quando comincio a vederlo come soltanto utente esterno con mia moglie, cioè, proviamo, se ne parla molto bene di questa serie, dicono no, questa serie in costume, ecco, le cose hai eccetera. Toccato un punto invece... hai toccato un punto secondo me, perché io sono uno spettatore come te, io ho un po' di allergia per le produzioni in cui il lavoro del costumista e dello scenografo costituiscono l'elemento prevalente. Sì, della sceneggiatura. E ce ne sono stati molti esempi, sì. sia al cinema che in televisione negli ultimi 30 anni, ci hanno anche un po' stancato. Sì. Qui bisogna, per chi come noi ha questo tipo di allergia, andare al di là. E vederlo. Sì, perché cominciare a vederlo. È una delle rare saghe televisive di questi decenni in cui la storia con la S maiuscola, in questo caso parliamo della storia patria dei britannici, e le storie con le S minuscole dei singoli personaggi, ma in questo caso che incarnano due mondi paralleli che stanno scomparendo, il mondo della nobiltà e il mondo dei domestici della nobiltà. Esatto. Si intersecano mirabilmente in un equilibrio perfetto di grande scrittura cinematografica. Anche mi cercate nel frattempo, visto che siamo in diretta, Gaia, mi cerchi la colonna sonora, io non l'ho portata, lo ammetto pubblicamente, visto che sono un grande collezionista di Downton Abbey. Proprio la musica dei titoli di testa, vorrei chiudere con quella, mi piacerebbe moltissimo. Orca miseria, lo urlo in diretta che l'ho dimenticata a casa. Anche perché si avvicina l'ora del tè, quindi esatto. non c'è musica più appropriata di Downton Abbey, che è bellissima, ti fa capire questa musica reiterante alla Philip Glass, Michael Neumann, bellissima, bella bella davvero, ed è affascinante. Quali sono, a parte la fotografia, a parte essere un marito, sei padre anche? Sono nonno. Sei nonno. No, ecco appunto, ci arrivavo, sei anche nonno, fotografo, professionista, che cosa rimane del tempo libero di Gianni Galassi? Le biciclette, i vigili che non solo parco. Mi piace costruire, assemblare e manutenere. A costruire le biciclette? Sì, ma no, che vabbè. Mi piace soprattutto usare. E devo dire, la bicicletta è il mio accessorio fotografico più importante. Il 90% delle fotografie che ho realizzato le ho realizzate recandomi sul posto in bicicletta. La bicicletta è l'accessorio fotografico ideale. La bicicletta sta alla fotografia, come alla sala di doppiaggio c'è? Come alla sala di doppiaggio c'è il bar. Non c'è la macchina o il motorino, c'è il bar. C'è il bar. C'è l'importante. Tutti vogliono sapere, vicino a quello studio c'è il bar. Esatto, perché, perché non noi sia abbiamo mai... giornate lavorative lunghe. Ad alta intensità e non c'è neanche tempo per mangiare all'ora di pranzo, allora, spesso sì. Quindi lo scooter è il bar. La società in questione, la BB, la Bibi.it, che è la società di doppiaggio che insieme ad altri tre insieme a Claudio De Angelis, Daniela Nobili, moglie, che saluto tantissimo, è stata anche mia direttrice di doppiaggio, persona estremamente carina, sensibile e divertente. Ci è venuto insieme. Esatto, e non voglio che tu indaghi per quale motivo ci è venuto insieme questa parola. Ti faccio credito. No, esatto. E Noemi Gifuni, che con cui tuttora si lavora abbastanza spesso, anche se ha deciso di tirare parzialmente i remi in barca, infatti non fa più parte della nostra compagine societaria. Questo è un richiamo tramite radio di far tornare all'attività. Ma no, guarda, è stata in sala con me non più tardi di 3 giorni fa, allora, per recitare magnificamente in una divertente sitcom alla quale sto lavorando in questi giorni, contemporaneamente a Downton Abbey, salto da una sala all'altra, che si intitola Significant Mother. È inglese? No, è statunitense, che andrà in onda in un canale Mediaset Premium tra breve. Queste sono le serie su cui sta lavorando. Cinema? In questi giorni. Cinema in questo momento assolutamente nulla. Cosa preferisci a questo punto, visto il nuovo linguaggio del cinematografico? Ma una bella serie o un bel film? Un bel film. Devo dire che nella mia carriera di direttore di doppiaggio e di dialoghista del cinema, io ho sempre avuto la fortuna di poter lavorare sulla parte più interessante, meno scontata, meno banale. Io ho collezionato nel mio curriculum soprattutto film d'autore e moltissimi film non qual di produzione. Qual è quello che sei più affezionato, scusami, a parte quelli che abbiamo detto prima, Invasione barbarica eccetera, c'è qualche altro film d'autore che consigli e che ci ha lavorato e ti ha dato tanta soddisfazione lavorarci? Beh, un autore al quale mi sento molto legato è Alain René. Scritto Alain Resnais. Alain Resnais, di cui ho curato buona parte dei film usciti negli ultimi 20 anni in Italia. Lui è un grande maestro del cinematografo, su questo non ci sono discussioni. Assolutamente, non voglio aprirla neanche io, non sarei in grado di affrontarti poi a questo punto come contraltare. E invece quale consideri proprio un traguardo che hai raggiunto nella tua carriera? Ti senti arrivato da qualche parte o comunque nelle vicinanze? Per me il più importante traguardo è stato quello di coniugare le mie capacità artigianali con quelle imprenditoriali e trasformare la mia fonte di reddito in una fonte di reddito per molte altre persone. Per me un imprenditore, e mi piace dirlo nella radio che è la voce dell'imprenditoria italiana, un imprenditore ha prima di tutto un dovere verso la collettività, che è quello di redistribuire la ricchezza che lui, meglio di altri, è in grado di produrre. Bella, bella, bella. Mi piace moltissimo. Noi siamo artigiani questo. E non siamo industriali, ma se vogliamo nell'artigianato la vicinanza con le persone insieme alle quali poi vai a condividere la ricchezza che hai prodotto è ancora più intensa. Cioè noi siamo un po' come i falegnami che stanno alla pialla insieme ai loro dipendenti. Ci sono dei messaggi di augurio, di Buon Natale, complimenti, ci seguono, poi sono quelli divertenti. Il dottor Galassi ha una giornata di 36 ore, come tutti i milanesi, immagino. Ma non è vero, sono anche uno che dorme molto. Ha preso in considerazione l'ipotesi di fare l'ospite fisso, fa il fotografo, il doppiatore, il conduttore, eccetera. Sono tutte cose divertenti. Gli altri sono complimenti e noi vi ringraziamo sempre per la vostra attenzione. Bene, è arrivato il momento di salutare Gianni Galassi. Lo facciamo con la musica di Downton Abbey, nonostante io ne sia uscito amaramente dalle grinfie della amata Mary. Stiamo per dare il benvenuto a una grandissima attrice alla quale piacerebbe moltissimo fare la doppiatrice, che è Elena Sofia Ricci, fra pochissimo ai microfoni di Radio 24. Gianni, grazie, in bocca al lupo per la tua mostra a Venezia. Crepera. Bella, senti come poi cambia la voce a questo punto. Sì. Mary, io la amo e l'ho sempre amata. Ma è lei che non ti vuole. Perché mi rispondi così? Signori, Gianni Galassi, a tra poco con Radio 24 e Voice Anatomy ed Elena Sofia Ricci. Lasciala un po', Alessandro, lasciala, ti prego. Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Voice Anatomy. Eccoci, Voice Anatomy in diretta da Radio 24. Un po' di fiatone perché pensavo di fare in tempo ad esplicare qualcosa di umano, ma invece non ci sono riuscito. Sentirete un po' di nervosismo nella mia voce, anche perché mi ha raggiunto una bellissima donna, una bravissima attrice, ma soprattutto una cara amica. Per questo ha lasciato famiglia, figli e mariti, non mariti, un marito, figli magari due, ma marito uno solo se mi sente. Stefano Maninetti mi uccide, grande musicista, che anche un grandissimo amico. Bene, e allora ho il piacere, leggo proprio esattamente quello che l'autrice Alessia Navarro insieme l'amico Berti Fabiani Damiano mi scrivono: ho il piacere di avere al mio fianco, perché io vado molto a braccio, però c'è una base molto importante. Tu sei un mito a braccio. Sì. Esatto, Ricci. Ho il piacere di avere al mio fianco uno dei volti più noti del cinema e della televisione italiana e del teatro. Una grande professionista, una donna estremamente affascinante e una carissima amica. L'avevo detto anche a braccio tutto questo. Nata però a Firenze. Ma Roma è perfetto, come ha detto anche lui. Solo nascere a Roma, no, Firenze anche lì è una meraviglia, è ma romana di adozione. Cresce immersa nell'arte, papà storico dell'arte e mamma scenografa. Puccio, che io saluto. La Puccetta, come chiamo io, grande scenografa, grandi premi, grandi film fatti da mamma. Ne ricordiamo un paio. Bene, ricordiamo uno per tutti: Mi manda Picone, per esempio, di Nanni Loy. Nanni Loy, poi molti film con Nanni Loy, con insomma tanti, tantissimi registi, amici miei, Atto Terzo, insomma. Tante cose, sì. Mamma, e ci starà ascoltando, sì, a me la, sicuramente. La prima sì. Famosa baronessa Ricarini della televisione, quanto sono antichi, qui si capisce quanti. Non ho detto quando sei nata, ma a sto punto no. Si capisce. Vabbè, ma dai, ma noi ci conosciamo da quando eravamo bambini, vino. Porca miseria, ho tentato in tutti i modi. Vabbè, ma questo è un altro discorso che faremo privatamente da altre parti. Cresce immersa nell'arte, papà storico, l'ho detto, mamma c'è una mamma di due donnine, Emma e Maria. Sì, una è proprio donna, perché tra un po' fa 20 anni, fa l'università, quindi lei segue le orme materne o lei, nonnerne? Guarda, lei poverina, d'altra parte cosa vuoi? È cresciuta in una famiglia di artisti, musicisti, architetti, storici dell'arte, registi, attrici, che doveva fare? È scappata in Cina, fa un'altra cosa, no, lontano. Fa il DAMS, si sta piano piano prendendo un diploma di pianoforte, ha fatto tanti anni di danza, cioè io sono un po' severa e pretendo che studino, anche perché se vorrà fare un mestiere nell'ambiente dello spettacolo, ed è estremamente probabile che lei desideri fare questo, essendo poi figlia di, no, chiaramente tutti i fucili saranno puntati contro, quindi bisogna che lei arrivi preparata. Come si dovrebbe fare in tutti i mestieri, no? Ho detto: guarda Emma, l'unico modo per far tacere tutti, insomma, che tu studi, ma non perché gli altri debbano tacere, ma perché tu devi arrivare preparata, perché poi il successo averlo è magari facile, il primo, il problema è mantenerlo per 30 anni, 35 anni. Quello che auguro anni. Sempre a chi comincia un bel insuccesso, sembra sì. Un augurio brutto, invece sì, no, invece perché... infatti io devo dire, la prima cosa che ho fatto è stato un flop clamoroso. Che qui gli autori non me l'hanno scritto, io non me lo ricordo. No, perché non è neanche annoverato tra gli annali delle mie cose, poiché mi cambiarono anche il nome quando fece questo film, sì, perché sapevo. La regista disse che con il nome di Elena Sofia Ricci non avrei mai fatto strada. Bellissimo, poi mi disse quello di tu non farai mai doppiaggio, 35 anni fa. Bellissimo. E quindi, poverina la regista, non c'è più, se n'è andata parecchi anni fa, una brutta malattia, poverina. Vabbè, questo, però, però insomma il film si chiamava Canto d'amore, era l'80. 1980, 35 anni fa. Sì, 79-80 veramente, a cavallo. 37 anni fa, ma tu avevi 6 anni, sì, 5 certo. Anni, era molto presto. Mi fecero di tutto, mi doppiarono. Perché, pure sì, sì, la nemesi totale. Poi siccome lei voleva Isabelle Huppert, che era molto più chic, no, di me, allora mi cambiò il nome con Elena Huppert, Cioè, tu sei... E quindi non... Hai un nome che è Elena... Hubert, con la DR, con l'H. Con l'H, con la DR, sì, sì, Hubert. E il film valeva questo cognome? Era brutto, eh? Era tanto brutto, mi dispiace. Guarda, dico, però tu hai fatto delle cose belle dopo, io posso dirti... Fu fischiato a Venezia. Sì, sì, capisco. Il film. Io, guarda, non devo parlare di me, perché questo sono soltanto un veicolo per quanto riguarda gli ospiti, ma questa cosa mi accomuna. Però almeno tu dopo hai fatto dei successi enormi che ti hanno portato dei premi, ne parleremo. Io invece ho fatto 7-8 film che faranno tra poco su Rete 4 come i dimenticabili di Rete 4. Cominciando. Ma forse qualcuno è stato pure carino come mezzo destro, mezzo sinistro, dove mi hanno doppiato in Veneto, oltretutto. Fantastico. Però ecco, io ho fatto quello, non sono riuscito. Poi devo dire che Tarantino credo che mi ami per un motivo, perché ho lavorato con i registi suoi feticci, quelli, certo, che lui ama. Certo. Da Tarantini a... Vedrai che da... prima o poi ti chiama. Sì, perché ho fatto Enzo Castellari, sì, Martino. Sì, prima o poi come la Edwidge, no? Nekle, esatto, il suo mito. Adesso tra un po' lo sarai anche tu. Esatto. Farete tu e Edwidge un film da protagonisti. Bellissimo. Con Tarantino. L'infermiere nella corsia. No, no, farete una cosa fichissima. Esatto, Tarantino. Non che sì, le altre non lo fossero. Cioè, tutto il lavoro è nobile, tutto per definizione. Assolutamente, fatto con grande dignità, tutto sempre vale la pena. E bisogna anche un po' sporcarsi le mani. Io sono... Io sono veramente sporcato anche la faccia. Sì. Però... sì, no, perché nel nostro ambiente c'è un po', no? Quest'aria un po' così delle volte. Un po' snob. Dimenticate dove si è partiti. Invece con orgoglio tu hai raccontato, almeno uno sente qualche novità, perché le cose sono all'ordine, sì, del giorno. Adesso clicchi, una noia mortale, esatto, sentire. Clicchi all'interno di te e ti racconta pure che tipo di reggiseni porti. Però la cosa bella è raccontarsi anche in un altro modo. Beh, Tarantino io l'ho sfiorato doppiando Django, ma va bene così, insomma, visto che il corpo, insomma, mica male. Sì, ho capito, ma il corpo era di Jamie Foxx e quello mi salvava, no, lascia stare, non ce n'è per nessuno. Per cui insomma la signorina Emma camminerà lì. E Maria invece è più piccola. Non lo so, vediamo. Ci proverà. Si è iscritta al DAMS, fa l'università, studia. Per ora studia. Questo film era regalo di Natale, poi parliamo anche della piccola Maria. Il regalo di Natale, poi morì fischiata a Venezia. No, Canto d'amore. Canto d'amore, sì, Canto d'amore. Era perché bellissimo film di Pupi Avati. C'hai ragione, anche perché mancano pochi giorni, allora io sono pervaso da questa canto situazione. D'amore, Canto d'amore fu fischiato a Venezia. Eravamo io e Lino Capolicchio, protagonisti. Ma grande Lino. Grande. Lui, guarda, fu la mia salvezza, Lino. Anzi, se mi sente, lo saluto con affetto. Ma mi salvò, perché io non venni pagata, prendevo la metropolitana. Ma sei stata presente a Venezia durante i fischi? No, ero presente, ma dunque, sì, ero presente, ma la regista quando mi vide, siccome andò a Venezia 2 anni dopo, io nel frattempo avevo lavorato in teatro come Elena Sofia Ricci, e certo, comunque mi ero fatta un po' notare, lavoravo con Mario Scaccia nella Scuola delle Mogli, sì, era uno spettacolo, cioè il teatro non era così popolare come la televisione o il cinema di allora, però insomma, era importante. E quindi quando mi vide disse: mi raccomando, non dire, perché io non ero invitata, io andavo lì perché avevo un fidanzato di Venezia. Va bene, questa Franco, è una cosa che non si sapeva. Come non si sapeva? 3 anni, sì, con il medico pediatra di Venezia. Sì, sì. Di Venezia? Sì, sì, proprio del Lido. Quindi io abitavo dietro alla casa del cinema. Hai cercato una scorciatoia per arrivare a Venezia in qualche modo? No, era amore, Sì, non è durato una casa. 3 anni. Non per avere una casa durante il festival. No, era amore. Sì, io sono sempre stata così, un po' innamoratella. E quindi quando mi vide arrivare, ho preso un colpo. Dicevo: no, guarda, non dire che come ti chiami. Ma veramente, forse qualcuno lo sa nel frattempo. E non mi fece, cioè non fui invitata nel parterre. Alla proiezione. Stavo proprio dietro, in mezzo al pubblico. Per cui hai vissuto da dentro. Sì, bellissimo. Bellissimo è un eufemismo, ma sì, mi unisco, perché anche il primo film che feci prima di quello fu In punta di piedi. Tu dici: che fine ha fatto? Non lo so. E partecipò a Venezia Opere Prime, perché prima c'era Venezia Leone d'Oro e Venezia Opere Prime, dove poi debuttarono i grandi come Fellini. Questo film, non so per quale motivo, arrivò a Venezia e ero uno dei protagonisti insieme all'amico Marcello Modugno, Lara Nazinski, che era la cugina di Gnastia, erano tutti figli, mi sembra come la barzelletta di quello che dice: oh, sto facendo un film, Scorsese, Martin, Joe, eccetera, chi De Niro, Robert, e insegno, Pino, sì, esatto. Insomma, nel film c'è, cioè, a un certo punto lei dava uno schiaffo a lui, lui dava uno schiaffo a lei, uno dal pubblico si è alzato e ha detto: adesso datene uno in faccia al regista. Questa fu la cosa più morbida che di quella giornata, per cui questa cosa ci accomuna. È stata bellissima, ma io l'ho vissuta pure io. Sì, sì. Senti, qui mi scrivono, ma io lo so perfettamente, che sei una delle attrici più apprezzate adesso, no? Dopo questo momento negli anni, fine anni 70, hai vinto 2 David di Donatello, 2 Nastri d'Argento, 1 Globo d'Oro e 3 Check d'Oro. Santa miseria. che il pubblico poi non è facile mettere questo d'accordo, perché sono tutti. Quelli solo cinematografici, no? Esatto, il cinema, cioè, poi mettere... vabbè, ci sono i premi televisivi che ovviamente, come tutta la televisione, vengono considerati meno serie B. Sì, serie B, invece non è vero. Però tu sei l'unica, credo, che riesca a fare questa altalena, questo slalom attraverso la credibilità che ti dà il cinema e quella magari più nazional popolare, esatto, pop, che ti dà la televisione. Cioè, passando ogni tanto per il teatro, dove vado a riossigenarmi un po', non che le altre cose non siano benefiche. Valgono tutte, l'abbiamo detto, però ecco, tu hai finito da poco, hai avuto la fortuna di vederlo, questo Tennessee Williams, questi blues di Tennessee Williams qui a Roma, alla San Umberto, dove c'è un lavoro sulla voce pazzesco. Grazie. Una bellissima regia, eccetera. Di quello, Armando Pugliese. Armando Pugliese, diciamo, sì, sì, grande. Sì, sì, no, questi testi non erano mai stati rappresentati in Italia e credo poco anche all'estero, perché ci sono tutti atti unici piccolissimi, quindi era difficile avere, cioè serviva un'idea per metterne insieme due o tre e farci uno spettacolo, un atto unico, e noi insomma abbiamo avuto questa bellissima intuizione. Poi l'avete traslato bene, insomma. Sì, funzionava. Io sono appassionata di Tennessee Williams, e anche Armando Pugliese, siccome è un regista che è una persona fantastica, sì, di una bontà infinita, una ma infinita, che ama far credere di essere cinico e ama l'aspetto cinico, graffiante delle cose, quindi non vai mai a fare una cosa melò. Anch'io amo moltissimo Tennessee Williams. Credo che Tennessee Williams non mi ami troppo, anche lui, anche se non c'è più. Comunque, allora rimani qui con noi, perché siamo arrivati, come sempre, un piccolo saluto, un piccolo break, respiro, e poi torniamo in compagnia di Elena Sofia Ricci o Elena Hubert, quella che preferite. Il vostro Joe I Teach vi saluta per un momento, che è Giuseppe Insegno in inglese, dovrei mettermelo questo nome. A tra poco con Voice Anatomy. Anatomy. E qui a Voice Anatomy, Elena Sofia Ricci, in arte Elena Hubert. Questo non te lo tolgo più, questo soprannome degli Hubert. Io purtroppo non sono bravo con le lingue. Stavamo parlando di questi esordi e poi di questo percorso in altalena fra televisione, fra teatro, fra il cinema, che non ha tolto la credibilità una cosa all'altra, perché sei riuscita sempre a farle in grandissimo equilibrio. È stato un momento in cui c'era tanta televisione, ma in quel momento di tanta televisione poi fortunatamente magari esce fuori il film come Mine Vagante di Ferzan Ospetek, che ti ha ridato linfa. Io devo molto a Ferzan, vitale, perché sì, mi ha riacchiappato e mi ha voluta per due suoi film. Io sono veramente grata, perché insomma, in genere i registi di cinema sono un po' più, sì, più seccati di prendere la televisione che si sia sporcato in televisione. Come se la televisione per forza fosse riservata. Invece io poi alcune cose, devo dire con grande orgoglio, alcune tra le cose più belle che ho fatto le ho fatte anche in televisione, insomma. Ne dico una su tutte, che era il film su Giovanni Falcone, per esempio, no? Che è un bellissimo, sì, lavoro. E così moltissime altre, come anche le lunghe serie, comunque sono state le serie di successo fatte con... Orgogliosa di essere una suora di successo. Sì, no? Anche di un... anche orgoglio. Anche orgoglio, a proposito di orgoglio. Ma anche Cesaroni, cioè sono tutte, Caro Maestro, insomma tutte serie che hanno segnato un po'... E tu poi hai cominciato con il cinema, hai debuttato con il cinema con Pippi Avati, non voglio sbagliare, nel 1984, sì, insomma, dopo quel film magari inutile come Hubert. Non è stato inutile, perché no, nonostante è stato questo utile. Io ho capito che volevo fare l'attrice. Esatto, come diciamo prima, e poi l'abbiamo, esatto, lasciato volare, che io ti auguro un insuccesso a chi comincia, perché almeno saprà gestire, esatto, un futuro, altrimenti non sai da dove ricominciare, sì, se no, dovesse capitarti all'improvviso. Sì, sì. Per cui glielo auguriamo. Ed era Impiegati di Pippi Avati, anche lì hai vinto il Globo d'Oro come miglior attrice rivelazione. Ero piccolina. 84, tu lo devi dire. Anni. Tu lo devi dire. Io ho 53. Perché ti riporti? Io bene? No, sì. E poi c'è il tuo viso. Tra poco 54. È lo stesso, non è come la battuta di Johnny Carson a una cerimonia degli Oscar, che disse, se ne uscì proprio come apertura, come vertura questa serata: bene, signori, buonasera, benvenuti alla 46esima edizione dei premi, alla consegna dei premi Oscar. Vedo molti visi nuovi su facce vecchie. Molti visi nuovi su facce vecchie, è straordinario. No, io sono una faccia che ha la sua età. No, vabbè, però, vabbè, ma la gente lo sa. sa, ti guarda. No, ma poi tanto c'è Wikipedia adesso, basta che fai su Safari, apri, vedi quando sono nata anche l'ora, ti dice anche la, l'ascendente. Ma poi non utilizzi le telecamere che ci sono adesso in televisione per le conduttrici. No, no, no, le ho utilizzate, zitto, guarda, ho fatto una cosa, una volta sono andata la in una skinny, trasmissione, bellissimo. Chiama. È bellissimo, una sì, toglie sono tutto. Andata, delle volte c'è di default, quindi io delle volte vado in televisione e mi rivedo ed ero bellissima. No, ma una volta mi hanno chiesto un regista amico, mi ha detto, ma vuoi un po' di skinny? Dico, ma che è? Dice, ma come che è? Lo fanno tutte le conduttrici, così così ero ospite. Dico, ma che è? Pensi una cosa che toglie tutte le rughe, che fa come tipo Photoshop. Dico, beh, certo che lo voglio, scusami. Da 1 a 10, Allora me lo mise, questa trasmissione andava in onda, era i soliti ignoti, ero da Fabrizio Frizzi, ospite, perché facevamo la promozione a Che Dio ci aiuti. Mi rividi, era la vigilia di Natale, ho preso un colpo, sembrava mia figlia. Cioè, sì, infatti, viso tutto senza una ruga, niente. Se ne accorge la gente, perché sembri la Madonna che appare. No, io mi sembrava una bambina proprio. Sì, perché luminosa. E poi la mettono su di te, ma nel controcampo sull'altra persona non c'è quella telecamera. Ma lì c'erano un po' tutti. Ah, ce l'aveva? Ah, mamma mia, sono l'unico non è l'utilizzata. Secondo me c'erano un po' tutti. E vabbè. Senti, l'epifania di Elena Sofia Ricci? Da quest'anno non faccio più la Befana. Perché? Perché mia figlia Maria finalmente non crede più né a Babbo Natale né alla Befana. Alessia Navarro mi ha chiesto di dirti questa cosa. Sono 18 anni. Dice, l'epifania di Elena. Aspettate, ecco, mi sta spiegando. Ah, perché Elena Sofia Ricci, tutta bianca, così era una rivelazione. Ah, epifania, ecco, l'epifania nel senso di rivelazione. Rivelazione, nel senso proprio. La Navarro pensa che io abbia questo cervello. Io ho pensato subito alla Befana invece. Sì, anch'io, perché noi siamo terra. Io perché sono mamma, quindi. Esatto. Siccome vivo il Natale, Befana, come io l'ho capito. No, tu puoi essere il massimo Babbo Natale. Allora, l'altro giorno mi ha detto mamma, dico, ma mamma non esiste. Maria, la piccola, non esistono Babbo Natale e la Befana, no? Perché ho detto, guarda Maria, che dopo 10 anni Babbo Natale, ma mamma, ma non esistono Babbo Natale. Dico, no, Babbo Natale non esiste, però la Befana, ma no mamma, dai, su, Babbo Natale non esiste, la Befana sei tu. No, io no, la Befana no, non lo sono io, no, sta uscendo la vocalità di blues, attenta. Sì. No, non sono io la Befana. Per cui meno male, Maria pure, nonostante sia giovane, non crede già più alla Befana. Comunque grazie per il complimento che non avevo colto, essendo una mamma terra. E io sono conduttore terra. Hai capito come si trattano? Senti, leggo che sei stata impegnata, e lo so, in molte pellicole internazionali, e questo è bello, La rivolta degli impiccati di Buñuel. Sì, con Jean-Louis, sì, il figlio di Louis, figlio Buñuel, immagino non c'era. E però è stata un'esperienza bellissima, l'86, sono stata 6 mesi in Messico, dove ho un po' lasciato il cuore all'epoca, e Jean-Louis Buñuel, il figlio di Buñuel, era un uomo eccezionale, ci ha raccontato anche tantissimi aneddoti sul padre, su alcune cose bellissime. E quindi, per esempio, sul perché le attrici dell'Oscuro Oggetto del Desiderio fossero due, no? E di quanto la critica lo aveva osannato per questa scelta geniale di due. In realtà poi lui ha raccontato tutti degli aneddoti, perché il film l'aveva iniziato Maria Schneider. Sì. Da sola protagonista. Maria Schneider notoriamente ha avuto Ultimo dei grossi problemi. Ultimo Donna a Parigi. Sì, grande attrice, ma con un po' di problemi. E quindi a un certo punto fu necessario sostituirla. E Louis Buñuel si mise a cercare le altre attrici per il film, e alla fine trovò la Molina e la Carol Bouquet. E non sapeva decidersi su quale delle due prendere, perché le piacevano tutte e due. Proprio non riusciva a prendere una decisione. Alla fine disse, ma io lo faccio fare a tutte e due. A una gli faccio fare la parte più quella più così, quell'altra le faccio la parte più colà, ma una parte divisa in due era diventata e qui fu geniale, capito? Quindi pensarono, chissà che in realtà non era stato per niente pensato. Beh, maestro del surrealismo proprio, Buñuel, ha fatto dei film pazzeschi. Sì. E poi con questa cosa, con questo, e poi leggo anche tanti altri film come Radetzky di Axel Corti, Clarissa di Jacques Derrière, Jacques Derrière, il regista della piscina, la piscina, madonna quanto siete bravi. Jesus di Roger Young, Stern de Liebe tedesco, questo non no, Maria David Vaida, Sì, c'è? Maria David Vaida, sì. Ah, vedi? L'assassina era un altro. Ma non sai che non mi ricordo molto. Vabbè, noi ci ricordiamo che noi. Voi ci avete scritti. Cioè, tu, beh, per forza, questa è una cosa che proprio non sapevo neanch'io. Ti conosco veramente da tempo in memore. Sì. Ero un bambino. Penso di non averne visti alcuni di quelli perché non sono mai arrivati in Italia. Credo. Tipo credo questo qua, sì. Di Marian David Vaida. Sì, non penso di averlo neanche visto io. No, tu, per esempio, noi parliamo spesso di doppiaggio qui, lo sai. I tuoi serial vengono venduti all'estero, se non sbaglio. Qualche cosa, sì, penso Orgoglio fu venduto. Sì, sì. Tu ti sei mai sentita in un'altra lingua? Io mi sono sentita nella Radeschi Marsch e in Mine Vaganti, doppiata in tedesco. Non so se è la stessa attrice che mi doppia o se fossero due attrici diverse. Certo è che io ho molto apprezzato quel doppiaggio. Quest'estate finalmente. A Vienna facevamo così, eravamo a Vienna con Zapping, a un certo punto arriva Mine Vaganti in tedesco, c'erano le mie figlie buttate per terra che ridevano con la crepapelle vedendomi recitare in tedesco, e però veramente apprezzabile. Sì, hanno fatto un bellissimo lavoro. In genere siamo noi italiani più bravi, cioè voi italiani, perché io noi ma gli italiani, ti ho sentito dire prima che io vorrei tanto doppiare, questo è falso. No, ti piace molto. No, io ammiro molto la vostra cosa. Beh, io non so, io so doppiare me stessa, non anche abbastanza veloce, ma perché doppio me stessa. Ti correggo, perché è più difficile doppiare se stessi per un motivo: i tempi della recitazione in italiano non c'entrano mai le stesse parole, perché non avrai mai gli stessi tempi. Noi quando doppiamo in un'altra lingua, ma è difficile. Anche quando dici buongiorno, lo so, ma la velocità con la quale hai detto buongiorno signori non riesci quasi mai a replicare la stessa, bisogna strecciarla un po', come si dice in gergo, allungarla un po' o ad accorciarla un po', perché è difficile, mentre in inglese magari aggiungi mezza parolina e va avanti. Senti, cos'è questa storia del bacio con Kevin Costner? Ah, mamma mia, ma tutti che mi chiedono sta roba. Ah, ti hanno chiesto? Io penso, ti conosco, santa miseria. Non sapevo di sta storia, ma neanche Mainetti. Ma sì che la sa Mainetti, mio marito la sa, certo, sa tutto. Allora, sì. Allora racconta, perché io non la so. Allora, successe che nell'87-88 arrivammo in finale in due attrici europee per il provino per Revenge, il film quello con Kevin Costner, bellissimo. Anthony Quinn, di Tony Scott. Ah, scusa, hai fatto il primo per la protagonista? Sì. Che poi fu... Che fu la moglie di Tony Scott. Che però era famosa, eh? Chi era la protagonista di Revenge? Adesso mi sfugge. Adesso non ricordo il nome. Ma molto molto bella, era la compagna di Tony Scott dell'epoca. Però insomma io arrivai in fondo, in finale, in fondo. E feci il provino con Tony Scott a Los Angeles, andammo io e la mia agente Marina Di Berti, che è ancora la mia agente, feci tutti gli step fino a che appunto la in inglese, Colombia, perché parlavi perfettamente inglese, no, perfettamente no, però insomma me la cavo e soprattutto la do a bere, nel senso ho abbastanza un buon accento, quindi sembra che parli molto meglio di quanto io in realtà non parli o capisca. E quindi poi alla fine dico ok, questa attrice le facciamo fare il provino con Kevin Costner, e quindi con l'aereo privato, col jet privato della Columbia Pictures, che era fortissimo, mi portarono nell'Iowa, dove Kevin Costner stava girando L'Uomo dei Sogni. Bellissimo. E lui a quell'epoca era veramente... quel film, L'Uomo dei Sogni, Field of Dreams, bellissimo. Meraviglioso. E lui aveva fatto La Notte, aveva girato La Notte, e quindi aspettammo la mattina che lui si svegliasse per venire a fare questo provino, e devo dire che all'epoca era veramente... bellissimo, sì. Kevin Costner. Ci sta. Io ci ero sta. Molto molto agitata, emozionata evidentemente, preoccupata di ricordare la parte, questo e ma eravate tutte e due lì le finaliste insieme? No, no, andate? No, solo no, io. Solo te. Solo io arrivai in fondo. E Tony Scott, buon'anima, era un fratello di Ridley Scott, che poi è morto da poco suicida, insomma, era un brutta fine. Era abbastanza aggressiva come persona, almeno con me non fu proprio morbido, quindi a un certo punto mi mollò uno schiaffo per farmi avere una reazione più aggressiva, mm-hmm. più violenta, più toccata, turbata, quando ho detto posso recitare così. E Kevin Costner fu molto carino e cercò di tranquillizzarmi, di rassicurarmi così. La scena prevedeva che io lo baciassi, quindi l'ho baciato esattamente come si bacia cioè un computer, un pianoforte. Ero talmente agitata che per me sì, non è, non ti sei giocata la possibilità. Ma no, ma non me la sono mai giocata, perché quando, a parte che io non amo molto baciare chi non amo, no, non è proprio una cosa che certo, mi piace fare. Esatto, ecco. Però al cinema ti è capitato, insomma. Sì, è capitato, certo, capita, però non è che sia sempre gradevole, anzi non è quasi mai, perché se non quasi ami. Mai sono stata innamorata dell'attore, che l'unica volta che mi sono innamorata di un attore non c'erano scene di bacio, quindi sono... Chi era, si può dire? Era Stéphane Fraisse, che era un attore con cui ho avuto una storia, ma Stéphane Fraisse. Stéphane francese, un attore francese, che era una storia di del Giurassico. Lui fa ancora l'attore? Sì, sì, sì, è un attore molto conosciuto anche in Francia, molto bravo. Ma vabbè, è una cosa che è passata, passata mille anni fa. Per cui c'è stato questo bacio con Kevin con Costner. Kevin Costner, però non te lo saprei neanche raccontare, perché la mia preoccupazione era da un'altra parte, cioè ero preoccupata del provino, le cose, quindi non me lo so goduto. Insomma, chi ha vinto, si è saputo sto provino? Chi era la moglie di Tony Scott? Avete cercato, Alessandro, Alessia? Sì, era bellissima, cioè. Madeleine Stowe. Madeleine Stowe. Bellissima, la protagonista dell'esercito delle 12 scimmie, film. Sì, sì. Bella, devo dire, bella. Insomma, moglie di Tony Scott, bella anche, brava. Sì, bella, fatto brava, bravissima. Stupenda. Però è strano questa, cioè un'artista italiana, attrice italiana contro una statunitense, perché la parte prevedeva, non era, mi ricordo se era sudamericana. Se era sudamericana, per cui l'inglese non doveva essere quello perfetto che loro richiedono. Senti, con quale regista ti sei trovata particolarmente bene? Ma che credo Ferzan, come hai detto tu, ti sei trovata molto bene. Sì, ma anche con Verdone, anche con è vero, Avati, io e mia sorella, altro film con importante. Avati, con Odorizio, Gigi Magni. Beh, carissimo Gigi Magni. Ma io mi sono trovata bene quasi con tutti. Quasi con tutti, cioè, veramente pochi i registi con cui ho avuto un po' più di difficoltà. Ti ma... manca qualcuno con cui vorresti Tanti lavorare? Tanti mi mancano. È uno a cui dici, vabbè, c'ho un desiderio, adesso posso esprimere un prossimo film di... Ma no. No, non ti viene in mente? Dico Steven Spielberg, così non offendo nessuno. Sì. Tanto, soprattutto è il periodo ipotetico di Quarto Tipo, cioè però, una cosa che non succederà mai. Però te può capitare, che ne sì, sai? Beh, certo. E magari ti capiterà di dare un bacio a chi c'è, americano, no, ma no, senza ma amore. Ma ormai adesso sono invecchiata, sono diminuiti questi ruoli che devo baciare le persone. Ma ti capiterà, magari ti capiterà, il regista americano Scorsese ti chiama, devi fare sto provino e devi dare un bacio a... No, non a... devo dare a nessuno. Benicio guarda. Del Toro. No, no, no. Johnny Depp. No, no. Tom Cruise. No, no. John Io ho una passione. Ma proprio una passione, che era Robin Williams. Vabbè, quello glielo mandiamo. Certo che non è normale che io abbia questa passione per tutta questa gente che non c'è più, sì, cioè, infatti, forse allora io dovrei indagare. Ne parliamo. Vengono tanti medici qui che conoscono altrettanti medici. Sì. Per ora stenditi su quel lettino esatto. Prendi quella medicina, quelle gocce che hai dimenticato di prendere. Rimani qui perché continuerai a stare ancora un po' con noi. E Voice Anatomy è appena cominciato. Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30, con me c'è Carlo Centa. Pierluigi Pardo. Ancora tu. Ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, un programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport, dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. Po' meno? Po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Voice Anatomy. Ed eccoci di ritorno, signori miei, Voice Anatomy, al mio fianco sempre presente, bella come il sole, senza possibilità di skinny, la telecamera che non invecchia mai, Elena Sofia Ricci. Peccato che non c'è una telecamera interna adesso con questa. La webcam. Sì, la webcam, però io amo, questa è la radio. E la radio deve rimanere la radio. Dai, sì. È come se tu anche dici... perché si può venire non proprio truccatissimo. Sì, si può no, proprio... benissimo. Ma no, la radio deve rimanere radio. Come il libro con dei disegni si chiama fumetto. Cioè, la radio in televisione è televisione. E poi manca il fascino, togli il fascino della radio e levi la ricchezza dalla televisione. Per cui viene una cosa sporca di due persone con una cuffia, uno di fronte all'altro, molto reality, ma che toglie quella fantasia che invece la radio può mettere come un bel certo, libro, insomma, certo. La radio lascia spazio all'immaginazione, metti no? Una musica e all'improvviso metti un po' una musica, Alessandro, che ne so, ma sì, scusami, io non neanche avverto, metti una musica qualsiasi bella, magari ci abbiamo per i sottofondi delle nostre interpretazioni, che ne so, ecco, questa all'improvviso Dave Grusin. Sì, questo è Rachel Portman, ma è molto simile a Dave Grusin. Sì, bravo. Dave Grusin è lo stesso autore del Paradiso può attendere, del Lago Dorato. Tuzzi. Tuzzi, una cosa grande. Ecco, però all'improvviso siamo nel Minnesota, è il 1948. Davanti a me una donna bellissima, non l'avevo mai vista. Ciao, come stai? Bene, tu? Tristezza, volevo dargli un po', togli questa musica, levatemi quest'ospite, mille premi, mi si avvede all'improvviso, bella conversazione, ma ciao, bella divertente, farite però, scusa. Tu puoi immaginare tutta questa scena costruita con sti colori, sta musica, questo Dolly da lontano che acchiappa l'arrivo di questa persona, troppo stupida, che arriva da lontano, lui gli si fa incontro, insomma, fine, sei tu davanti a me, capito? C'è ragione. Io non sto in radio, io sto proprio davanti a te, che siamo amici da quando eravamo bambini. E questo ha fregato, io ho messo la voce migliore che potevo mettere. Sento, non capiterà mai che gireremo noi e te una cosa seria. Io rido. Posso rido anche una maschera, non saprei mai che sono io. Devo doppiarlo, un protagonista. Fai un altro film straniero. Sì, dai. Fallo con Viggo Mortensen, fallo con Jamie Foxx, con questi qua che io doppio, se no non te posso manco stare vicino in quel caso. Adesso chiedo. Beh, tu Viggo Mortensen ti ci vedo, dai. Sì, eh? Dai, lui è. C'ha i stessi colori tuoi, nel senso che. Mio fratello può fare. Sì, no, il fratello, sì, ma non tuo marito, anche il tuo uomo. Secondo me, poi è l'artista americano più occidentale, più europeo che c'è. Mi piace tantissimo. Senti, c'è qualcosa nella tua vita professionale che non rifaresti? Oppure tutto è servito? No, tutto è servito assolutamente. Anche quel film. Tutto quel film, i fotoromanzi. Tutto. È vero che hai fatto anche i fotoromanzi. Con chi lavoravi? Ho fatto famoso? Un fotoromanzo con Kabir Bedi e Massimo Ciavarro. Ho avuto la prima copertina di Grand Hotel. La prima copertina mia che mi è stata dedicata, me l'ha dedicata Grand Hotel. Sì, con una foto bellissima di Marinetta Saglio. Marinetta Saglio, famosissima e bravissima, certo. Cara amica. Che anni erano questi qua? Erano 80. Anni 80, quel periodo d'oro dei 81, fotoromanzi. 81, sì. Beh, anche io li e ci ho pagato svariati affitti con quella. Sì, guadagnava. Non era tantissimo. Poi non è facile, perché quelle espressioni. Difficilissimo, poi rimanere lì bloccato. Sì, l'hai dimenticato Franco Gasbarri, che è bravissimo. Bene. Bellissimo era anche lui. No, mi ricordo con grande affetto queste cose, che nonna comprava Grand Hotel, che non compravano queste cose. C'erano tutte le mie compagne di scuola che adoravano, ce l'avevano, ritagliavano le foto di Kabir Bedi. Erano gli eroi di quel momento. Lo mettevano sul diario. Sì. Invece a me piaceva Costantin Nepo, che era l'attore che faceva Antino. Ah, bellissimo, nell'Odissea di Franco Rossi. Te lo ricordi? Sì, bello. Tutto scavato, bello. Così. Era bellissimo. Com'era, non si trovava neanche una foto sua, perché Antino non se lo filava nessuno. C'erano tutte le foto di Ulisse, di quello. Ma lui. Guardatevelo adesso in internet, che adesso si può. Guardatevi la figura di Antino nella prima Odissea con Bekim Femiu, o Femiu, non so come si pronuncia, che è greco l'attore. Un'Odissea fantastica, tuttora. Bellissima. Fa paura l'incontro con Polifemo. Bellissima. Nonostante l'effetto sia soltanto dato dalla proporzione della cinepresa rispetto agli attori, ma fa paura, incute veramente attenzione. Quella grande opera. E quando uscì la prima volta, l'inizio era proprio Giuseppe Ungaretti che leggeva alcuni passi dell'Omero. Dell'Odissea. Era bellissimo. Proprio ancora vivo. Come il no, poeta decadente del Novecento. Non si capiva una parola, entrava nella grotta. Sì, bellissimo. Costantin Nepo, bello. Io l'ho andata a rivedere un po' di tempo fa. Dico, ma che adesso com'è? È un bellissimo signore. Bellissimo grande. Signore, grande. Era ragazzo. C'ha una quindicina d'anni più di me, ce l'avrà. È un signore, eh? È un signore. Io ogni tanto... Però molto interessante, è rimasto. Io spero che il maestro non sia in ascolto in questo momento. Ma il maestro, però io lo amo come poche cose al mondo. Nessuno, quindi. Senti tu, quella donna bellissima, Francesca Morvillo, nella fiction Giovanni Falcone, ne parlavamo prima, bella figura, eh? Come sì, ti sei trovata? Ecco, quella è stata forse la prova d'attrice più difficile della mia vita, perché portare e ricordare al grande pubblico una donna esistita, è scomparsa da pochissimo tempo, quindi è rimasta nella memoria di tutti, sebbene Francesca Morvillo non si facesse tanto vedere, fotografare, però insomma è stata una donna così grande. Io ogni volta che parlo di lei mi incarto, perché non riesco a trovare mai le parole per raccontarla perché non mi sembra di essere sempre in difetto. Hai avuto modo di noi so che la famiglia è stata contenta dell'omaggio, sì, che ho cercato di dedicare, insomma, ho cercato di raccontare questa donna con amore, con rispetto, ecco, cercando di entrare un po' in punta di piedi. Certo. Però faccio fatica, cioè tuttora vedo che quando devo parlare di questo progetto... Sei riuscita però a conoscerla, nel senso, conoscerla dal punto di vista, te l'ha raccontata qualcuno, i suoi aspetti più nascosti? Me l'ha raccontata qualcuno e mi ha raccontato molto di lei, le sue fotografie. E sorrideva in tutte le fotografie. Questa è una serie di comunicazione non verbale che, sì, racconta molto di più, sì, della mi ricordo specialmente questa cosa, perché appunto filmati, video non ce ne sono. Essere la donna di un uomo così in vista, così a rischio ogni minuto, certo il sorriso. Beh, lei l'ha proprio amato. Beh, di una, cioè, fino a seguirlo, sì. L'amore che aveva per Falcone e per la giustizia, per il loro lavoro, perché insomma anche Francesca lei, sì, Morvillo era magistrato. Magistrato, quindi, sì. E, è stato qualcosa di veramente straordinario, insomma, noi siamo tutti debitori. Se solo potessimo essere un millesimo di quanto sono stati loro, questo mondo andrebbe meglio. Dovrebbero proiettarli ogni giorno dentro, sì, le scuole, certi, sì, certi film che raccontano così attivamente, effettivamente, la vita delle persone che hanno cambiato, hanno tentato di cambiare la storia per cercare di mandarla nel verso giusto. Sì, poi quelli sono veramente stati, sono i nuovi eroi, no? Questi, sì, eroi veri, reali. Per cui anche lì, però per la voce hai sentito qualche registrazione, qualcosa che ti ha aiutato a cercare, no, di avvicinarti? No, lì ho dovuto imparare comunque la cadenza siciliana, sì, certo, di Erice, quindi poi in una settimana, perché io sono andata anche lì in sostituzione a una collega, la quale sarò grata tutta la vita, che ha deciso di non fare più il ruolo pochi giorni prima, una collega bravissima siciliana, e quindi mi hanno chiamato al volo e quindi io in una settimana... Ho avuto un coaching molto importante, perché in una settimana... Sì, vabbè, tu io però... un po' orecchio, un po'... Che cadenza era? Che provincia era lei? Beh, lei di Erice era, quindi perché Palermo, insomma, così. È che è più difficile, perché sì, il catanese è il siciliano cinematografico, a quello me che si utilizza. Paradossalmente veniva più facilmente il... È più facile il palermitano? Per me sì, ma perché un mio nonno era di origine palermitana. Palermo è più... Palermo, sì, però lei era una donna anche molto colta e istruita, quindi solamente una cadenza. Una cadenza leggera. Leggera, quella che aveva lei. E poi invece da questi altri interpreti, invece nel teatro... Non l'avrò fatta benissimo, no, però... No. Vabbè, per questo te lo domando, è venuta... Sì, più che altro quello. Benissimo, l'anima è uscita fuori... Totalmente. Per cui da ogni parte qui è stata la cosa più difficile, più importante dal punto di vista emozionale. Sì, nel teatro emotivo, invece sì, i blues, io beh, vado i blues su quello perché, adesso perché è fresco, sì, ma in maturità l'hai fatto anche con delle espressioni vocali difficili, perché insomma passavi dalla grinta, dalla rabbia, dall'antipatia, da una voce isterica, graffiante, ubriaca. Eri veramente l'opposto dell'Elena Sofia Ricci che conosco, e questo fa onore a un'attrice, perché eri veramente da prendere a schiaffi un paio di volte, sarei salito sul palcoscenico e di ma perché non... Cioè, dove proprio... l'hai tirata fuori? Dove ce l'avevi sta ma perché voce? Sta cosa? Poi noi abbiamo la fortuna ma di... non ti è piaciuto? Da morire, esorcizza. No, è giusta nel personaggio. Come hai fatto? Sì, no, eri giusta, eri quella donna strappata, sì, con la vita strappata, eccetera. Per cui veniva fuori, io se ero tuo marito sulla scena, mi veniva voglia, perché era per quello, per grande verità. Era... Beh, è stato questo spettacolo in particolare molto interessante, proprio anche dal punto di vista vocale, perché portando in scena tre donne in tre età diverse, una ragazzina che ovviamente non mi sono messa a fare la ragazzina, no? Ne ho fatto una giovane donna come se fosse rimasta incastrata ad una adolescenza, quindi diciamo che le parti che ci potevano raccontare la sua adolescenza, la sua giovinezza, erano quelle parti in cui Willy, il mio personaggio, parlava un po' normalmente, però poi faceva "non è morta con la rabbia", no? Di quella di quando parla della sorella, di "non è morta come al cinematografo, non è, cioè ha fatto una morte del cavolo mia sorella, non si muore così", lo fa come fanno i bambini un po' quando fanno i capricci, no? Ti sei esorcizzato, perché ognuno di noi poi porta in scena le proprie follie. Questo tratto rimaneva un po', perché ci doveva essere comunque un filo che accomunasse queste tre donne, rimaneva in parte nella flora del secondo atto, quando è più fanciulla, quando è più bambina e si lamenta perché non c'è da bere in casa. Apposta ti avremmo preso a schiaffi e tuo marito lì, sì, e basta. E faceva capricci. Invece arrivano tanti bei messaggi, arrivano tanti, qualcuno, uno molto lungo, ci si racconta un po' in Sofia mille anni fa, la Turchia, auguri appena tutta la 24, Elena Sofia Ricci, grazie di tutto quello che ci regalate, Maria Laura, Pino, Dio ti invidio, quella bellissima donna che è al tuo fianco, un'altra grazie alla Ricci, eccetera. Rico da Bosco Reale dice qui di pini ne abbiamo tanti ma uno solo è l'originale, grazie Natale a te e ai tuoi ospiti. Complimenti per la conduzione della sera del Gran Premio. Beh, fantastico, grazie, sei stato grandissimo. Elena Sofia Ricci, va bene, un altro urla il nome della mia squadra, ma questa non è la trasmissione. No. Va bene, allora, aspetta, ci salutiamo ancora un attimo, poi l'ultimo blocco insieme a te, gli ultimi 10 minuti, 12 minuti, 13, non so quante ce ne darà Radio 24. A tra poco con Voice Anatomy. Recupera, recupera, recupera, recupera, ha vinto, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Voice Anatomy. Ed eccoci, Pino Insegno vi ridà il benvenuto a Radio 24, a Voice Anatomy in diretta, sono le 16.06 e 30 secondi e in diretta qui di fronte a me la splendida Elena Soferici che mi guarda sempre con un sorriso sornione, non riuscirò mai a prendermi un'occhiata seria, si è messa anche gli occhiali. Anche perché se non ti vedo. Ma dai! Non ci vedo, io sono notoriamente ciecata. Non è vero, io non ti ho visto mai in televisione, nelle fiction, al cinema. No, Ospedec, nei Mine Vaganti, eri una zitella terrificante. Sai che è diventata ciecata dopo che Ferzan ha visto me armeggiare con gli occhiali, mi parlava, dico aspetta perché non ti sento se non ti vedo, perché non leggo il labiale. Andiamo quindi bene. Questa cosa lui l'ha divertita molto e quindi la zia Luciana è diventata l'hai anche fatta proprio molto bene, devo dire che è vero. Quando poi tu ti dimentichi che c'è dietro la tua amica, la persona che conosci, come dietro una voce ti dimentichi che c'è quel corpo di quella persona che conosci e ti porta direttamente all'interno di quelle emozioni, ha vinto. Cioè quel film è spettacolare. Vorrei grazie averlo. Ferzan Ospedec che sta finendo poi di girare, credo. No, non sta c'è girando, un momento di stop, cioè, in Turchia. Sì, con la Turchia in questo momento ci sono un po' Rosso problemi. Istanbul, bellissimo sì, il libro ho letto, bellissimo. Sì, me lo spedì. E gli lessi le prime due pagine per fargli capire, perché devo dire a proposito di Ferzan, al quale voglio molto bene, ed è l'unico regista italiano, l'unico film italiano che io doppio fra virgolette, nel senso che faccio sempre la presentazione dei trailer dei suoi film, sì, che lui crede molto che vada bene, perché da quando gli ho fatto il primo è scaramantico da impazzire e ogni tanto gli dico sai che non posso, e lui impazzisce, riesce a promettermi addirittura il protagonista del film successivo pur di avermi lì in sala con lui, però ovviamente è un'amicizia molto bella, una persona veramente intensa, e quel film fu magico, noi lo vedemmo a Berlino proprio. Come in anteprima, no, ci incontriamo lì per puro caso. La prima uscita del film fu un'emozione. Ma sì, già pazzesca. Da lì si respirava il grande film. Successo, E ogni tanto lui riesce a fare. Alterna delle cose un po' meno forti, come tutti quanti, devi alternare come il sorriso e il pianto. Se non lo alterni, perde di significato l'uno e l'altro. Tra i suoi più belli. Insomma. Senti, Ricci, quanto è importante per te la musica? Ma sai, poco, tantissimo, perché io vengo dalla danza. Dai, cioè mi formo. Tua sorella è una danzatrice straordinaria. Mia sorella è una coreografa grandissima, è una danzatrice di danza contemporanea fantastica. Io molto più così, semplicemente venivo dalla danza classica, dalla danza in generale, quindi ho mangiato pane e musica da quando ero piccola e poi ho studiato chitarra classica, insomma così. E però la musica mi ha sempre un po' fregato, infatti poi mi sono sposata un compositore. T'ha fregato veramente. Stefano, che è proprio... Stefano Mainetti, un grandissimo compositore, veramente. A parte i suoi lavori internazionali sono splendidi. Andate lì, c'è anche qui, c'è tanto di Wikipedia e tanto di internet per andare ad ascoltare la soave musica del maestro Mainetti, che ho avuto la fortuna di avere anche semplicisticamente durante le sigle di Finché c'è ditta c'è speranza, ma lui va da lì fino ai film di Russell Mulcahy o Ted Koch fino America o Orgoglio, che è l'altra bella musica, la colonna sonora di Orgoglio vince tutti i premi, bella anche del tuo blues, ce l'abbiamo in famiglia, sì. Insomma, un amico musicista, sfruttiamolo anche ai prossimi lavori. Ci sarà il maestro, lo rubiamo ogni tanto anche la musica sacra, è stato bravissimo, è stato uno, il primo che fece recitare cantando il Papa, Papa Wojtyła o Madre Teresa all'interno delle composizioni che lui ha fatto, bellissime. Vabbè, abbiamo parlato, è un amico, ma non solo un amico, è un grande professionista. Sì. È difficile parlare dei propri amici o dei propri fratelli o mogli in maniera, perché sembra sempre che uno agevola questo nepotismo. Sì. E allora uno ci pensa sempre un po' prima di parlare, perché rischi di fare il contrario, di lo stai dicendo perché è. Ma in questo caso non è, sapete perfettamente tutti quanto è difficile, è più facile far fare una cosa a un amico lontano che al proprio fratello. Sì. Che è bravo, è difficile, per cui noi ne stiamo parlando un po' a detti stretti e in punta di piedi, perché abbiamo paura di essere considerati soltanto degli amici, dei fanatici, però la musica, ovviamente la domanda era ironica, tanto per raccontare quanto è importante la musica nella tua vita. Poi la musica credo che debba essere importante, sì, nella vita di chiunque. Sì, penso anche che dovrebbe essere insegnata un po' di più, cioè bisognerebbe dare un pochino più di spazio allo studio della musica, proprio studiarla. Ma la musica è teatro, anche, obbligo nelle scuole. Non so, questi ragazzi di oggi non hanno mai sentito una sinfonia di Beethoven, non hanno mai sentito un concerto di Tchaikovsky, o di Chopin, cioè veramente devi fargliela amare, devi fargli avvicinare certe cose, pensano che sia noiosa, no? Che palle, invece poi scopri che se già, cioè, io una volta un ragazzo mi sono divertita perché lui dice: ma io non conosco niente queste cose, ma è noiosa, è classica. Aspetta un attimo, gli ho fatto sentire il Rack 2, no? Il concerto di Rachmaninoff per pianoforte e orchestra, gli ho detto: senti che quanto è rock questa roba, no? Cioè, allora è impazzito, allora gli ho fatto sentire la sinfonia del nuovo mondo di Dvorak, vabbè, lì quattro movimenti straordinari, esatto, c'è, cioè, della musica grandissima, poi ovviamente anche quella contemporanea, la musica da film, tutto ciò che è bello uno deve ascoltare, dal rap. Però certo, alla musica folcloristica, se non hai mai sentito un concerto di Chopin o di Tchaikovsky, ma parte tutto, fai fatica, da là, cioè non capisci più cos'è, cioè ti fai abbindolare poi da certa musica che gira. Ma certo, io lo dico sempre anche ai giovani, dico: ok, va benissimo, ma senti Pink Floyd, ascolta di Deep Purple, ascolta i Genesis, ascolta Stevie Wonder, certo, tutte le cose da dove è partito tutto, quanto Beatles, certo, i Rolling Stones, quello che vuoi, per poi arrivare dove vuoi, alla musica gothic rock, alla musica elettronica, a quello che va al rap, all'hip hop, a qualsiasi cosa, ma devi sapere da dove tutto è partito, che percorso è stato fatto per arrivare alla musica elettronica. Sì, senza i Pink Floyd, devo dire che non noi ci sarebbe Italia, stato che niente. Siamo comunque una delle patrie della musica, nel invece siamo canto. Oggi piuttosto indietro. Ignoranti. Sì. E noi ci accontentiamo dei talent. Però io non voglio parlare male dei talent. No, quello no, perché danno le possibilità a qualcuno di arrivare. Da qualche parte deve pure passare. Sì, certo, passare, certo. Cioè, non il rischio è soltanto demonizzare, di perdersi. Bisogna stare attenti. No, soltanto il rischio di perdere per strada qualcuno veramente bravo che si demotiva, si deprime, ha perso e non canta più. Che ne so. Lo so, però una volta c'erano altri sistemi per entrare, adesso c'è questo, c'era, quindi va bene giro, tutto. Il problema è un problema di cultura musicale, cioè noi siamo un paese che sta perdendo identità. Sì, che non proprio in campo musicale non sa nulla. Senti, attrice e mamma, difficile, eh? Maremma. Ecco la Toscana. Mamma, anche moglie, mamma, insomma, è moglie. Moglie, amica. Vabbè, ma magari fai acqua da tutte le parti, inevitabilmente. Sì, non riesci a fare bene niente. Perché bene o male ti devi alzare presto, perché al trucco al cinema alle 6 quando ti dice bene, sì, proprio stai già al trucco, alle 8. Con la suora vado meglio perché c'è poco. Sei bianca. No, cioè, un po' di trucco, cioè, non si vede, ma c'è, cioè, non pensiate che io sia proprio così, però è molto poco, quindi, certo. Quindi è sufficiente che io sia lì alle 7, insomma, mi dice bene. Sono più fortunata, anche il costume ci metto poco, insomma, i capelli non li devo fare, quindi lì sono un po' più fortunata. Che succede nel futuro a breve, Elena? Nel futuro a breve succede che riprenderò Che Dio ci aiuti, e la quarta serie, poi c'ho un bel po' di progetti, qualcosa anche di un po' particolare, però non posso parlare. Fammi fare una scena con te, magari muoio subito dopo. Tu muori da ridere, ma io muoio subito dopo. C'ho un po' di sogni ancora nel cassetto, grandi, sì, ce l'ho ancora. La prima regia? No. No, non no, ti interessa. No, al massimo tu sai che darò una mano dei nostri comuni una amici. Una consulenza. Sì, in teatro, ma non è una non è propria regia, non è il mio lavoro, non ho velletà da questo punto tu di canti? Vista. Tu canti? Io... Domanda di riserva? Sì, suoni qualche strumento? Sì, suonavo la chitarra classica abbastanza decentemente, attenzione, ma non... Chi è vicino le suona da sempre la chitarra classica? Non lo suono più. E allora, tesoro, io ti ringrazio, Elena. Grazie è stato a voi. Bello e mi ha fatto compagnia, vi ho fatto compagnia soprattutto a chi ci sta ascoltando. Noi adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione, ci sarà un ospite, un amico, anche lui bello, importante, che è Leo Gullotta. A tra poco. Allora, grazie. Grande Elena Sofia Ricci, un abbraccio grazie alla tua famiglia. Ciao Pino, ciao auguri, a tutti a casa. Auguri, a tra poco con Voice Anatomy e Leo Gullotta. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, bentornati, e il bentornati ve lo dà una delle voci per eccellenza, un grandissimo attore, un bravissimo doppiatore, un grande che non poteva che essere qui da noi a Voice Anatomy. Lui nasce a Catania nel 1946, lo diciamo perché è un uomo, nel popolare quartiere del Fortino, ultimo di sei figli di un pasticcere. Insomma, lui è qui con noi, abbiamo soltanto raccontato la parte dolce della sua vita, e lui è Leo Gullotta. Eccoti. Buongiorno, bentrovati. Ecco. Auguri anticipati, posticipati, ma che presentazione, caro Pino. No, ho preferito... È un piacere esserci. No, il piacere è per noi, non potevi mancare. Non sei qui con noi a Roma perché sei in tournée, come sempre, preso dai tuoi grandissimi impegni teatrali in questo ma momento. Ma arriverò a Roma, e appena arriverò a Roma sarò lì con voi in studio, con grande piacere. Eh sì, perché stai portando in giro adesso uno spettacolo teatrale molto bello, anche divertente. Da un certo punto di vista, dove sei adesso? Sei a Bari, se non sbaglio, e in poi verrai all'Ambra Iovinelli. A Bari, esatto, fino per tutte le feste, insomma, a Roma. Poi Roma ha la piacevolezza che per le festività, come abitudine, si va a teatro, ci si libera almeno una volta l'anno. Bene, senti carissimo Leo, tu sei anche un carissimo collega per quanto riguarda il doppiaggio, per cui di voce te ne intendi, tu che della tua voce ne fai un'arte tridimensionale, fai l'uomo, perché fai la donna. Perché tu che te ne fai con la tua voce? Quadridimensionale! Oh, e poi la tua eleganza, sei sempre un gran signore, veramente, io evito di raccontare tutto quello che hai fatto e soprattutto tutto quello che farai. Senti un po', ma dove tu l'hai declinata, come dicevo prima, e a 360 gradi, come curi la tua voce, Leo? Ma innanzitutto, guarda, particolarmente io non la curo la voce, se per cura si intende delle abitudini con delle cose, certamente non la sforzo, certamente non vado oltre, certamente so usarla nel senso che guai ad andare fuori dall'ordinario nell'uso normale, nel lavoro soprattutto. E come si dice, chi fa la nostra professione sa perfettamente, perché è preparato tecnicamente. Molti sono convinti che basta parlare e la cosa è fatta. Questo lo sai meglio di me, l'avrai spiegato senz'altro tante volte al pubblico di questa tua trasmissione. Bisogna essere preparati come in qualsiasi altra professione, bisogna sapere, non si parla tanto per parlare usando la voce, si fa perché si conosce diaframma, uso della voce, come farlo, sono linguaggi che appartengono a chi fa il nostro mestiere, nel senso che sono linguaggi diversi tra loro, ma che appartengono a chi fa il mestiere dell'attore. Poi l'attore comprende tante sezioni, doppiaggio, teatro, macchina da presa, la stessa battuta, lo sai meglio di me, detta in palcoscenico e detta in un modo, detta davanti ad un microfono per il doppiaggio in un altro, detto davanti alla macchina da presa e un altro ancora. Quindi sono linguaggi che appartengono al mestiere dell'attore. L'attore è un interprete, cioè offre al pubblico personaggi lontani da sé. Anche se poi racconta sempre un pizzico di sé in qualche modo, però sicuramente è così. Ecco, l'hai raccontata perfettamente. Poi un attore è un attore, come hai detto tu, a 360 gradi. Se è un comico, se è drammatico, fa l'attore. No, ma c'è l'abitudine, lo sa. C'è l'abitudine di, in questo nostro paese, perché negli altri non esiste, esatto, di dire attore cinematografico, attore di teatro, il comico, il drammatico, e l'attore queste cose le deve saper fare, ripeto, appartengono. Si conosce per caso un medico che opera soltanto appendiciti? No, un medico deve conoscere il corpo umano, e così è per l'attore. Poi si può specializzare sicuramente da qualche parte, sicuramente, però tu, ecco, e poi prendi molto, poi certi non sanno magari che il lavoro dell'attore comico forse è il lavoro più serio che c'è su questa terra. È il più difficile, esatto. È il più difficile, infatti, con questa commedia meravigliosa, Spirito Allegro. Che è appunto una commedia leggera, elegante, briosa, brillante, è una commedia di situazioni, non fatta di battute a tutti i costi, è una commedia che genera una serie di cose con colleghi professionalmente alti, una messa in scena modernissima, la regia di Fabio Grossi, il mio caro amico Fabio, bravissimo, la regia di Fabio Grossi col quale ho fatto tantissimi spettacoli. Sì, lui poi mi prende sempre in giro. La cosa divertente di Fabio, che un giorno poi vorrò intervistare, che ogni volta mi incontra, fa: e tu sei la voce di Jamie Foxx? E ride. Ogni volta trova qualcosa per prendermi in giro. Lo adoro. Non prende in giro, lui gioca. Lui gioca, sì, no, ma scherzo. Importante. Infatti, gli attori si chiamano i player. Non prendetevi sul serio, no, questa bravi. È la nota. E soprattutto questo è l'augurio del Natale del nostro amico Leo Gullotta. Senti, tu sei uno spirito allegro a proposito del titolo del tuo spettacolo. Ma se per spirito allegro il titolo della commedia che porti in giro si intenda spiritoso, non vuol dire questo. Spirito sta per spiritello. Sì, spiritello quello, sì. Ma io sono uno spirito allegro, dico sempre, come sono stato fortunato nella vita. Fra poco festeggerò i miei 70 anni. 70, ho la salute. Leo. 70, 70. No, è 70 me da tanto? No, come 70? Lei no. 46 lo hai detto nell'annuncio, quindi lo so, ma non ho fatto i conti, Leo. Per me sei sempre, Leo, senza tempo, perché poi... Ma guarda, senza anche tempo per la gente. Sì, l'importante è che ognuno è ciò che desidera essere. Se vuoi dare lo spirito allegro della tua persona al prossimo, basta saper regalare un sorriso. Lui è sempre, io lo dico perché uno non può dirselo da solo, Leo Gullotta è una persona a cui tengo particolarmente, ma molti di noi e molti di voi, pubblico anche profano per quanto riguarda il nostro mestiere, ama Leo Gullotta. Io lo amo particolarmente perché è stata la prima persona importante che ho conosciuto in un film divertente, che certo non è rimasto anche nei ricordi di molti, perché sto parlando di Mezzo Destro Mezzo Sinistro, un film leggerissimo, come no? Certo. Dove io ho avuto la fortuna di conoscere Leo Gullotta, e Leo Gullotta in due secondi ha capito perfettamente chi ero, ed è stata l'unica volta, la prima e unica volta, che c'è stata una persona che mi ha imitato. Io non dimenticherò mai quella sera al ristorante, e Leo mi ha disegnato esattamente come sono. Un po' mi sono vergognato, perché quando ti specchi e ti riconosci, dici: oddio, sono così, un uomo bello, corroico, sempre col sorriso, sempre con le battute, sempre sorridente. E poi non dimenticherò mai, perché vuoi essere gioioso con gli altri, sì. A volte magari, come si dice, ci si può esagera. Anche esagerare, sì. Ma l'importante è saper dare, sai, è così difficile oggi saper dare la generosità. Oggi viviamo in situazioni di paura, uscite dalle case, state fuori, il teatro è millenario, il cinema, il libro è medicina per la mente, quindi stare insieme significa anche acquisire quella libertà democratica che ci siamo conquistati nel nostro paese. Uscite. Che bei messaggi. E poi un'altra cosa volevo dire, l'ho visto vivere con la gente, quando vedi dei colleghi così importanti vivere con gli altri come se fossero dentro la propria famiglia, è bellissimo. E non lo dico per gratificare Leo Gullotta pubblicamente, lo dico perché quel giorno lui non sapeva che c'era anche mia madre, che adesso vabbè ci starà ascoltando da un'altra parte, ma e mamma si avvicinò a Leo Gullotta come tante altre persone in quel cinema stavano facendo, e Leo prese la mano di mia mamma, gli baciò la mano, la abbracciò e disse, come dice sempre lui alle persone, io lo rubo questo augurio, tante cose belle signora, tante cose belle a lei e alla sua famiglia. Poi mi sono avvicinato e ho detto è mia mamma, ma lui aveva trattato mia madre esattamente come le madri degli altri, non perché lei era mia madre. Perdonami Leo se vado sul personale in questo modo, non lo faccio quasi mai. Mi fa piacere, perché se quando certe volte mi capita, come in questo caso tuo, hai un ricordo con me assieme, sì, ad una persona cara, così cara come tua mamma, a me non può che farmi piacere più di un complimento qualsiasi perché vuol dire che mi releghi tra quel piccolo ricordo nel tuo album personale. Sì, un album di ricordi che sta dentro il cuore. E poi con Leo ho avuto la fortuna di camminare insieme nel doppiaggio dell'Era Glaciale, che è un film epocale da quella, insomma, sì, è un film, sì, che sì, sì, è verissimo. Tu grande organizzatore anche lì. E poi ti sei trovato, volente o nolente, sei l'unico in grado di poter sostituire con grande classe il grande e indimenticato Resti Lionello con Woody Allen. Insomma, già da tanto tempo si vociferava della tua possibilità di doppiare Woody Allen, perché hai quella plasticità nella voce, quegli intermezzi vocali che aveva anche il grande Resti Lionello, e adesso sei tu che accompagni Woody Allen. Ma è stato un modo come un altro per stare accanto nel ricordo di un carissimo, meraviglioso attore, va da sé, ma carissima persona. E quindi non è, poi lo sai meglio di me, tu sei un magnifico, straordinario doppiatore, ancora una volta non divido le classi, sei un attore, certo, quindi come tale agisci come erano poi, fra le altre cose, i grandi doppiatori del passato che prestavano la loro voce. E il doppiatore non deve fare altro che osservare ciò che accade nello schermo e avvicinarsi il più possibile a quello che quel signore fa sullo schermo. Senti, niente di particolare, facciamo il nostro lavoro. Assolutamente. Senti, caro Leo, siamo quasi alla fine, un paio di minuti ancora con te. Cinema ne hai fatto tanto, hai vinto anche dei premi importanti, soprattutto con Giuseppe Tornatore. Ma qual è quello che porti più nel cuore? Per me ce ne sono tanti che hai fatti. Beh, Cinema Paradiso, per quanto mi riguarda, e credo per quanto riguardi anche le persone che ci stanno ascoltando. Tu hai cominciato poi con, se non sbaglio, con Nanni Loi, hai debuttato nel cinema con Caffè Express, non vorrei sbagliare, Leo. Non sbagli, ma questo è arrivato dopo. Io ho debuttato, sì, poi e mi ha permesso di conoscere il lavoro con La Macchina da Presa, con quel tipo di film che in quegli anni andava per la maggiore, erano Le Dottoresse ai Servizi Militari. Quindi non disconosciamo tutto questo. Io lo racconto sempre da dove si parte, sempre. Bravo, assolutamente, quindi va benissimo. Qual è il film di cui sei più affezionato? Che lo ricordi con amore? È come dire, quel figlio mi piace più di, esatto, quell'altro. Sono mamma, tutti papà, figli miei del mio lavoro, qualcuno fortunato, qualcuno meno fortunato, ma ognuno mi ha insegnato qualche cosa, mi ha portato qualche cosa. Mi piace sempre osservare il prossimo, cercare di capire nei limiti del possibile, ripeto, cercando sempre di essere lieve, non prendersi sul serio e scendere dal predellino, dal podio o sputare la perla, come spessissimo si fa, e non solo nello spettacolo. Ma tu pure quando vinci la medaglia d'oro cammini alla base del podio tranquillamente, per cui senti, carissimo Leo Gullotta, io ti auguro ovviamente ogni bene, come dici tu, tante cose belle, ma vorrei che lo ripetessi. Allora, l'appuntamento nostri è arrivederci presto in studio. In studio, poi uno. A Roma il 22 dicembre, poi tra pochissimo proprio al Teatro Ambra Iovinelli. Esatto, poi auguri meravigliosi per questo Natale, ma soprattutto per l'anno nuovo. A te, i tuoi cari, gli amici che in questo momento stanno in ascolto, sì, auguri a tutti, cose belle a tutti. Cose belle anche a te, grazie Leo Gullotta, a voi grazie Sanatomi. Grazie a te, grazie a voi, ciao, grazie. Un abbraccio, a tra poco con voi Sanatomi. Grey's Anatomy. Eccoci, grande puntata oggi qui a Grey's Anatomy. È vero, dovreste essere voi. Sì, Grey's Anatomy, buonanotte, guardate come sto. Voi's Anatomy, preso in prestito ovviamente da Grey's Anatomy. Tornare di corsa In diretta provoca anche questo, ma non ce lo prendiamo, insomma. Sicuramente il mio amico in internet, con i vostri messaggi al 349-238-6666, sicuramente mi riprenderà. Allora, signori, mi raccomando, utilizzate tutti i network dei nostri social, da Facebook, dal nostro Twitter. Noi siamo pronti ad ascoltarvi e a replicare. Dopo il grande Leo Gullotta, come al solito, navighiamo nel mondo della voce in tutte le sue declinazioni, e ci è venuta a trovare una grandissima solista, corista, solista no perché sta sola, ma poi indagheremo nella sua vita privata, corista, una vocal coach, una percussionista, studia e si diploma nel 92 presso il St. Louis Music School in canto moderno e jazz, in seguito si appassiona e si specializza in musica brasiliana, arrivando a prendere parte alla tournée del 96 addirittura con Toquinho il Grande. Sotto un foglio di carta lo vedi il sole che sorge. Oh, ti posso raccomandare? No, lascia stare, mi serviresti molto come vocal coach. Oggi è un'affermata cantante lirica, spaziando così con il suo eclettismo dal moderno al classico e vantando collaborazioni con famosi artisti internazionali. Attualmente, cosa molto interessante, collabora con l'Accademia Reiki di Roma tenendo un corso di yoga della voce. Yes. E questo è bellissimo, ci ha entusiasmato moltissimo, devo dire che i miei due autori, Navarro Fabiani Berti, che sembrano tre ma Fabiani Berti è soltanto un cognome, sono straordinari a trovare delle persone interessanti, perché il mondo della voce è così vasto. Sì, d'accordo, l'attore, va bene il doppiatore, va bene l'adattatore, il dialoghista, lo scrittore, la cantante, ma trovare questi in questi meandri, lei è Marina De Sanctis. Yes, salve a tutti, buonasera. Ma De Sanctis non si pronuncia. Tu perdonerai. Lo scrivo, ma non lo pronuncio. Giovane, ecco. Bella. Grazie. Voi non c'è, un rosso di capello che capisce che la signora è molto accesa e rischia di accendere chi non si comporta bene. Mi infiammo facilmente, si anche infiamma, occhio ceruleo profondo. Non sto facendo la corte, sto cercando di disegnare radiofonicamente, esatto, nella, esatto, fantasia degli ascoltatori, anche perché non abbiamo la webcam. No, altrimenti come sarebbe detto pure prima. Esatto, sarebbe una televisione, non sarebbe più radio. Allora, come nasce la tua passione tanto per la musica? Allora, sarò breve. Allora, nel 1918, esatto, mio nonno. No, allora, come hai già detto, a parte sono rimasta abbastanza sconcertata, siete peggio dell'FBI. Sappiamo, abbiamo bureau, tralasciato qualcosa di delicato, l'abbiamo tralasciato. Federal Bureau. Ma è meno male, almeno sì, sì. Qualche scheletro nell'armadio me lo posso ancora conservare. Ancora sì, non ti conosciamo da quel punto di vista, allora ti navighiamo per quello che fai. A vista, però. Sì, sì, a vista. Allora, dunque, dico cosa sono oggi. Sono, sì, una cantante specializzata in canto antico, in particolare periodo che va dal Rinascimento fino a Mozart, barocco, però poi non disdegno anche... E gli anni quali sono? Perché non mi 500, voglio... 700... 700, 850 special, vai. No, come fai a sapere che quando ero piccola io... cioè i miei avevano l'8,50. E beh, una che naviga dal 500 al 700 non può non arrivare all'8,50, se non anche alla 1100 storica. Quella no. Quella no, è mancata, sì. Però l'8,50 ce l'ha, sì, anche mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì. E quindi ecco, sono specializzata in musica antica, canto antico e bada bada, attenzione, bossa nova. Sì, musica brasiliana. Mi salti dal canto antico, è come se Angelo Branduardi all'improvviso cantasse La ragazza di Ipanema, così. Sì, sì, possiamo fare anche questo esempio. Sì, molto bello. Tra l'altro... Ma perché ci sono delle sonorità che ti hanno... sono comuni, che mi sfuggono? No, oppure... non è un discorso di sonorità, è un discorso di passione. Come ci può piacere, che ne so, la ragazza nera e poi la svedese, no? Esatto. Ecco. Quindi cioè, si tratta proprio di cosa trasmette. Però mi hai guardato come per dire Pino è de bocca buona, per cui se passa da una così a un'altra. Non mi permetterai, no, mai, Pino, ci mancherebbe. No, comunque devo dire che essere intervistati da Pino Insegno non è cosa di tutti, di i, giorni. Tutti i giorni, meno, no, male, qualcuno aggiungerebbe, meno male. No, e quindi questa passione sfrenata per questi due generi non potevo, come dire, nasconderla o metterla un pochino nel dimenticatoio. Ho detto, senti, c'ho questi due amori che per il momento riempiono la mia vita, singolarmente posso eseguirli, ma perché non farli tutti e due insieme, no? Mm-hmm. Cioè portarli insieme in un concerto, e quindi poi è nato anche il mio progetto discografico. Poi se vuoi, sì, se sì, no, glielo chiedo perché mi hai regalato quel CD, dico, ah, perché ecco, non farlo ascoltare, aiuto, scusami, che è metà musica rinascimentale con canto rinascimentale, canto rinascimentale, sì, sì. Allora, in particolare in questo progetto abbiamo preso in esame John Dowland, che è un maestro liutista, era addirittura maestro liutista alla corte di Elisabetta I d'Inghilterra, quindi mm-hmm, insomma non era pizza e fichi, come diremmo a Roma, esatto, no? E il signore ha scritto veramente una produzione molto vasta, e tra cui anche composizioni per la formazione che ho in questo disco. Voce, chitarra classica, all'epoca ovviamente era il liuto, violino e violoncello, ovviamente, ripeto, non possiamo avere qua gli strumenti dell'epoca, però no, qualcosa che gli assomigli. Esatto, esatto, se no viola... Possiamo ascoltare un minutino, sì, di Come questo? Come Again. Come Again, che è un nome molto moderno poi. Come Again, sì. Sì, 8 ottave sotto. Again, questa è lei. Sweet sympathy. Che invidia. Che invidia. Tu potresti farmi diventare un po' così come vocal coach. Certo, è difficile, questi toni non potrò mai averli, non sono un soprano. Guarda, sarebbe come dire, come se io ti chiedessi, potresti farmi diventare una brava attrice come tu sei. Ecco, un bravo attore. Come dire, bravo, è impossibile, attore. No? Tu è possibile che tu possa diventare una no, brava attrice? È più difficile che io possa. No, ma è una no, cosa, credo, posso fartela recitare. Riesco a farti magari un antidolorifico che possa riuscire a farti recitare qualcosa. Per te sarà un'impresa più difficile. Ci ho provato a tale quale show e qualcosa sono riuscito ad arrangiare, ma purtroppo non assomigliamo mai a nessuno. Questo è affascinante. È uno studio difficile, ovviamente. È uno studio per addetti ai lavori. Sì, cioè, non è il disco da hit parade, è un disco d'amore. Esatto, esatto, esattamente un disco d'amore. Fatto proprio solo per passione. Quindi non era destinato al grande pubblico. Sì. Natale, diciamo, ti sei fatto un gran regalo. Io lo definisco mio figlio. Poi questo è un progetto che abbiamo condiviso. Però tu fai dei concerti importanti, sì, per cui può essere veicolato all'interno, sì, sì, di una... Sì, sì, sì, assolutamente può essere preso in situazioni anche abbastanza... Fai un bel concerto in una chiesa importante, eccetera. C'è il tuo disco a disposizione, sì, la gente, sì, tipo, si porta a casa un pezzettino di te. Sì, insomma. Sì, sì, sì. Non è un disco radiofonico, insomma. Esatto. Nel vero... Comunque, ecco, quello che abbiamo ascoltato era un esempio di come la voce può essere usata in modalità lirica. Poi c'è anche... C'è il bossa nova, qual è, per dare il numero al nostro grande Alessandro? Allora, guarda, lo carichiamo durante la pausa, sì, casomai l'altro brano, sì, eh? Sì, l'altro, sì, brano. Oggi io faccio delle richieste istantanee, mi stavo uccidendo con lo sguardo, sempre un grande sorriso. Grazie Alessandro, davvero, a tutto l'apparato tecnico di Radio 24, per cui sei anche una vocal coach, quello mi interessa tantissimo, sì, cioè, dove insegni? Cioè, una scuola? Allora, io attualmente faccio, come hai detto te prima, lo yoga della voce presso l'Accademia Reiki. Ci stavo arrivando perché esatto, voglio capire. E poi, diciamo, sono un insegnante di canto moderno, però con tecnica classica, in una scuola che sta a Talenti, che si chiama Quarta Sospesa. Faccio pubblicità. Quarta Sospesa, è così, la Quarta Sospesa. No, devi farlo perché, guarda, io lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo, che certe cose vanno messe a scuola, proprio dalle elementari, medie e liceo. Esatto, esatto. Musica c'è, ma non c'è mai la praticità, guarda, nella musica e lo studio della voce. Prima con Elena Sofia Ricci dicevate appunto di quanto la musica in Italia abbia un ruolo ormai estremamente marginale. Questo è terribile, perché appunto l'Italia è la patria del bel canto, quindi insomma bisognerebbe valorizzare di più. Però ci sgoliamo, possiamo sgolarci, o possiamo anche fare, sì, con la voce che esatto, hai tu potresti convincerli. Se fai uno sciopero tu e gli altri, e sotto il ministero si va, vero, con queste voci, secondo esatto, me non è male come cambiate idea, sai? Leggi, esatto, miglioratele. Qualcuno passerà, ci regalerà anche qualche euro, però sarebbe uno sciopero bellissimo. Grazie per i messaggi che arrivano dalla trasmissione, gli auguri di Natale che noi ovviamente ricambiamo con grande affetto. qualcuno mi dice: Mario da Rimini, racconti il tuo incontro con Viggo Mortensen. Eh sì, è lungo, poi lo racconterò, ci sarà occasione, tanto la trasmissione per fortuna va avanti, visto che sta andando molto bene. Allora, dicevamo questo yoga della voce, mi piace molto, che lo yoga normalmente è rilassamento del corpo, eccetera, ma è abbinato alla voce, sì, cioè ci sono emissioni sonore, allora, guarda, nelle posture, com'è? Sì, allora il discorso del come sono arrivata a questo è abbastanza, diciamo, semplice, se vogliamo definirlo così. Quando ho iniziato a studiare canto, mi sono resa conto di quante tensioni una persona può avere, no? Personalmente ne avevo diverse, insomma. Ti dico pure che ero balbuziente. Sì, sì, ero balbuziente, non grave, però insomma avevo una balbuzie. E devo dire che lo studio del canto già di per sé porta ad un rilassamento di tutte quelle porzioni. Sì, se non è una patologia dovuta a chissà quali problemi fisiologici, si riesce a bypassare. Esatto. E, quando poi, per problema legato alla colonna vertebrale, mi sono avvicinata ovviamente allo yoga, facevo ogni giorno, facevo, no, ma è uguale al canto, ma è come cantare. E quindi piano piano ho detto: io credo che tu sia l'unica che faccia una cosa, no, si è allargata, no, non, allora non so se ci sono delle insegnanti di canto che fanno anche lo yoga della voce, ma sicuramente ci sono delle persone che fanno dei seminari, chiamiamoli così, dove abbinano proprio dei suoni vocali a delle posizioni, a delle cosa bellissima, anche come preparto. Sì, sarebbe fantastico. Eccolo, è proprio la morte sua, come si dice, a proposito di nascita, no? Guarda, la scuola è la stessa, questa di Talenti, dove insegni yoga o il vocal coach? Yoga della voce lo insegno presso l'Accademia Reiki. Invece insegno canto. C'è un sito, puoi dirlo, sì, sì, tranquillamente, certo, dillo. www, se posso dire proprio assolutamente tutto, www, certo. Accademia-centrale, come se fosse il segno meno, Reiki col K e lei normale, leinormali.com, quindi lì trovate tutte le specifiche del io caso. Il primo livello Reiki, pensa, lo facemmo, davvero? Sì, lo facemmo io e papà per un motivo molto così, la nostra amica ci raccontò dell'importanza del Reiki, di questa cosa, di questo, non è né un massaggio né pranoterapia, è una cosa d'energia tranquillamente che possiamo avere chiunque. E siccome avevamo mia mamma un po' ammalata, pensammo con papà di aiutarla con questo tipo di passaggio di energia. Papà, che era già una persona grande, si immerse in questa avventura che durò qualche giorno e aiutava mamma tutti i giorni, e non solo lei, ma anche a me mi ha fatto addormentare una volta, ha rilassato mio fratello, sì, anche sì, un autocontrollo. È bello, è affascinante. Molto. Non molto. È una cosa in cui serve, cioè, capito, noi ci mettiamo ci immergiamo. No, è una cosa molto naturale, sì, molto tranquilla, non c'è nessun dispendio fisico. E nessuna controindicazione. Allora, siamo già arrivati alla fine del primo blocco insieme a te, ma ce n'è un altro, ringraziando il cielo di ancora un quarto d'ora insieme a te, e non vedo l'ora di ascoltare qualche esempio, e dopo ci prepariamo quest'altro esempio di musica brasiliana. Va bene? A tra poco con Voice Anatomy. Sia un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Anatomy. Ebbene, signori miei, la nostra Marina De Santis è ancora qui con noi per raccontarci che cos'è questo yoga della voce. Ci ha fatto già sentire prima uno studio su questo CD uscito sulla musica sia rinascimentale, lirico, e poi anche a metà del disco, metà dei brani sono invece musica brasiliana. Lei ha avuto anche la fortuna e la bravura di fare una bellissima tournée con il grande Toquinho. Ascoltiamo un esempio di questa. Non è samba, è bossa nova. Bossa nova. Sì, è uno dei brani più importanti forse del repertorio della musica popolare brasiliana, scritto da Tom Jobim, ed è veramente un gioiellino, e Imagina. Imagina. Muito bem, você está falando. Você é? Imagina um mês. Vai ver, né? Ascoltiamo. Vai. Imagina, hoje à noite a gente se perder. Imagina, a lua se apagar. Quem já viu a lua crepes? Quando a lua começa a murchar. Preciso gritar e correr, socorrer a lua. Ma quante note ci sono? Tante. Non sono sette, sono molte di più. Lasciamola un po' sotto che ci accompagna. Insomma, questo un esempio pratico di esercizi yoga voce, come si unisce? Allora, guarda, se il movimento del corpo non possiamo farlo vedere, ma allora, puoi raccontarlo. Sicuramente un discorso che ti posso fare è che alle posizioni che vengono assunte, alcune ovviamente che favoriscono di più la produzione vocale, vengono associate appunto delle emissioni del suono. Possono essere anche suono, soltanto, non parole, suono. Suono, possiamo usare sia le vocali semplici, ma anche, che ne so, consonante vocale come M-A, M-I, N-A, diventa un mantra praticamente. Un mantra, possiamo definire così. Ma ovviamente io non è che, dato che sono una cantante in primis, e quindi mi devo preoccupare di come le persone poi gestiranno lo strumento, perché la voce comunque, le corde vocali, certo, sono uno strumento affiato. Reale, esatto, uno strumento affiato reale, e quindi devo assolutamente preoccuparmi di insegnare loro a eliminare, o quantomeno controllare le tensioni che portano a contrazioni, blocchi, eccetera, eccetera, per imparare a gestire nel migliore dei modi questo strumento. E questo che abbiamo sentito adesso, scusami se ritorno un attimo sì, al sì, disco, non preoccuparti. Abbiamo sentito una parte di brani cantati con vocalità lirica, una parte cantati con vocalità moderna. I puristi ovviamente sconsiglierebbero assolutamente il fatto di fare due cose o più cose, no? Perché dicono, se fai la cantante lirica devi far quello, sennò... No, non conoscono Demetrio Strato, se ne parleremo nella puntata, esatto, del 3, una puntata sul suono, che cosa, esatto, significa... Io faccio un esercizio soltanto con un braccio, come dice Demetrio Stratos, io ingrandisco quel braccio, aiuto quel braccio, ma il resto del corpo? Esatto. E allora, la lirica, esatto, è un'espressione del canto. E infatti, ma... diciamo che questo mio progetto vuole un pochino essere anche una dimostrazione del fatto che quando uno ha una conoscenza della tecnica, può fare qualsiasi cosa, non c'è limite, insomma. E... quando ovviamente io insegno poi canto aiutandomi con gli esercizi di yoga, vedo proprio che le persone sbocciano, perché è così. Sai, molto spesso noi... A chi lo consiglieresti questi... A tutti. In questo periodo storico a tutti. Quanto dura una lezione? L'ora... Allora... normalmente è un'ora di lezione a settimana, e può essere sia individuale che fatta da piccoli gruppi. Ovviamente noi cerchiamo di trovare delle persone che abbiano problematiche, diciamo così, simili, esatto, perché comunque non è facile, no? Anche per una persona che sta bene, insomma, sì, fa, sì, non sì, è che devi star male, anzi, no, ti aiuta, no, a star, no, meglio. Bravo, anche perché spesso, sottolineo questa cosa, non abbiamo il contatto col nostro corpo, cioè proprio non lo conosciamo. Non lo consideriamo, poverino, è il nostro vestito primario. E pensate, quindi... anche le parti intime del nostro corpo noi non conosciamo, perché noi ci vantiamo di essere sessualmente attenti solo a certe cose. Ok, sono distratto sui capelli, ma so perfettamente il mio pube come funziona. Non è così. Voi non sapete neanche come funziona, noi non sappiamo neanche come funziona esattamente. Esatto, esatto. E più siamo liberi, più si libera tutto. È vero, è verissimo. No, poi tra l'altro... parlando anche, entrando un attimino nel tecnicismo, no? Tu sai che si lavora molto sui chakra. Sì. Tu sai cosa I sono sette i chakra? Chakra? Tu sai cosa sì, sono avendo i chakra? Fatto il primo livello del Reiki, lo so. Infatti. Allora, i chakra sono incolonnati letteralmente uno sull'altro, quindi sono collegati. Quindi non possiamo noi prendere in considerazione un chakra e scordarci degli altri. Certo. Quindi devono essere tutti armonizzati, per usare un termine musicale, no? Devono essere in armonia. Ci sono anche dei massaggi, kundalini, eccetera, esatto, che riescono a armonizzare i chakra. Esatto, insomma, esatto, esistono tante tecniche belle, rilassanti, sì, posso garantirvelo io che... L'ho provato in prima persona, non sto raccomandando niente. Ovviamente lo yoga, sono degli esercizi in particolare, lavora molto sul fisico, ma attraverso il fisico si arriva proprio allo spirituale, a quella parte della persona che non è tangibile, che però poi... Qualcuno ha paura della trascendenza, come se dovesse essere chissà cosa. Guardate, io sono un uomo più terreno che conosco, però lasciatevi prendere ogni tanto da... Vi arricchisce, vi arricchisce da un certo punto di vista, totale, anzi, a 360 gradi, vi dà quello sprint in più, e ve lo dice veramente un uomo terreno. Sì, ma poi ci rende tutti più buoni, devo dire. E quello è fantastico. E poi disposti anche a fare del bene, no? Esatto, ben dispone, insomma, tutto questo ben dispone. Poi io credo sempre sia il caso di provarle certe cose, perché anch'io quando mi sono avvicinato al Reiki ho avuto la forzatura di mia madre che non stava bene, ho detto perché no, tentiamo anche questa, perché quando c'è qualcosa che non va sei disposto a tutto. Allora dico, cominciamo ad essere disposti a anche tutto, quando anche non quando c'è, non c'è bisogno, cioè, perché quando cerchi i soldi e non ce l'hai, non arrivano. Se c'hai una donna, è inutile che ti cerchi, non arriva. Soldo chiama soldo, donna chiama donna, divertimento chiama divertimento, infatti, sonno chiama sonno. Non è che quando cerchi di dormire a tutti i costi non ci riesci a dormire. Allora riposiamoci quando c'è la possibilità, cerchiamo le cose quando non ci servono. Allora vedrete che poi vi sentirete ricchi a un certo punto. Ecco, il Reiki a cosa mi è servito in quel momento? Tanto a dare una piccola speranza di gioia, eccetera. E poi mi è servito a me personalmente, perché ho avuto il modo di utilizzarlo con dei miei amici e ha funzionato. Sì, sì. E allora anche questo yoga, il yoga della voce, mi intriga tantissimo. Guarda, se tu avrai modo di conoscere le due ragazze fantastiche che dirigono... Beh, questo arricchisce molto la voglia di venire a fare yoga, yoga della voce. Esatto, e lì si fa Reiki, quindi insomma avrai modo... Sì, si fa vestiti, tranquilli, signori, Reiki, si sta vestiti, perché la gente sente Oriente, Reiki, chakra... Sì. Dica visto mai, no? Sì, capisco di rendere terreno tutto quanto, ma insomma c'ha il suo perché di trascendente. Sì, sì, sì. Però se sono belle ragazze, che insieme già questo veicola un po' più. Belle ragazze, belle persone, è frequentato da belle persone, ovviamente. Beh, sai, poi la cosa fortunosa, diciamo così, se si può usare questo termine, è che questi posti permettono ai simili di incontrarsi e di trovarsi. Perché non è così facile, no? Trovare... Arrivi lì con delle crisi che vuoi aiutarti a uscirne fuori e magari non solo risolvi... Risolvi tutto. C'è una disponibilità totale, ma non è un ufficio per scambismo, tranquilli. Insomma, io cerco sempre, tu dici ti scusi di alcune parole che utilizzi, io dovrei scusarmi per tutte le parole che utilizzo per radio, ma questa è una radio anche di servizio e ci tengo molto che le persone come te raccontino e facciano sapere, urlare con la propria voce. Poi se tu urli ti sentono da qua direttamente senza microfono in tutta, Roma. Ti dico soltanto che quando arrivano dei miei amici e suonano al citofono, io sono all'attico, quindi al quinto piano, sono al citofono e magari in quel momento siete proprio, stanno diventando stupidi anche i miei radioascoltatori, ma è fantastico. I chakra sono come l'aura, è la vostra aura, non c'è, è andata via. No, vabbè, l'aura non c'è, non ti sei firmata, firmati, ti prego, credo di amarti, chiunque tu sia. È bellissimo, che l'aura è la vostra aura, è quella che abbiamo intorno al nostro corpo, il riflesso della nostra anima, si chiama aura. Laura non c'è, è andata via. Vabbè, credo di amarti. Vabbè, scusami, Marina. Prego, prego. Dobbiamo anche chiudere, guarda, su non queste fa niente. Cose. Però avremo occasione. Ecco, salutiamoci con questo disco. Come si intitola questo CD? Allora, il disco si chiama Vita e poi tra parentesi En Bossa Nova. Vita in Bossa Nova. L'Iridiana è Recta Corda. L'Iridiana è il mio nome d'arte. Poi spiegheremo se vuoi. Tornerai perché ti ho dato questi due momenti, questa mezz'ora sporca di intrattenimento con te, ma vogliamo parlarne ancora. Vabbè, la trasmissione è ancora lunga. E ancora ci tengono qui a Radio 24. Grazie, signori, e fate un buon Natale. E poi gli auguri fatti da un pino a Natale valgono di più.